La zanzara con Alessio Maurizi. 18 e 6 minuti, buonasera gentili ascoltatori, anche questa sera insieme fino alle 20.30, 824 0024 per intervenire in diretta. Potete anche scriverci i vostri sms al 349 238 6666 oppure le vostre email all'indirizzo lazanzara@radio24.it. Incredibile, ma forse non vero. L'avete sentito anche nel giornale radio, la notizia, la data Dago Spia questo pomeriggio, Bruno Vespa alla conduzione del Festival di Sanremo. Lo stesso Bruno Vespa però ha smentito, mi sembra abbastanza seccamente. Ha detto: sono lusingato della proposta, ma faccio un altro mestiere, non sarei in grado di gestire bene la macchina di spettacolo come è quella del Festival di Sanremo. Però qualcosa ci deve essere sotto. La RAI ha detto nomi in circolazione, nomi di fantasia, però lo sappiamo com'è in questi casi. Evidentemente qualche cosa c'è di vero. Già il fatto che se ne parli è incredibile, ma d'altra parte sarebbe un po' la prosecuzione di quello che già è avvenuto con calciatori e veline che ospitati su TV e stampa, ma non nei loro ruoli, quanto nei ruoli di opinionisti. E così, quasi in un rovesciamento ideale, ci troviamo un giornalista a cui viene proposto, probabilmente se così è stato, di condurre il più grosso forse contenitore di spettacolo in Italia. È affiancato poi dal Belen Rodriguez, una delle possibili partner di Vespa. Questa è la notizia oggi di Dago Spia. Belen Rodriguez, la showgirl sfiorata dallo scandalo VIP e cocaina, che avrebbe ammesso nel corso di qualche interrogatorio di aver fatto uso di cocaina. C'è stata un'inchiesta anche recentemente che ha riguardato la città di Milano, alcune discoteche. Ebbene, per molto meno, l'anno scorso il cantante Morgan era stato invitato e poi escluso direttamente dalla manifestazione Canora. Ripeto, la notizia per quanto riguarda Bruno Vespa è stata smentita dallo stesso Vespa, però siamo abituati. Poi insomma, sappiamo anche che il Festival di Sanremo cerca pubblicità, ha bisogno disperato ogni anno per rilanciare il carrozzone di un po' di pubblicità, e cosa di meglio di notizie come queste. In queste ore però l'attenzione sembra di nuovo catalizzata attorno al tema dell'ulivo. L'ulivo voluto da Romano Prodi, lo strumento politico col quale il centro-sinistra è riuscito a vincere le elezioni nel 96, rilanciato ieri da Bersani. Oggi Bersani ha detto al festival, al meeting di Rimini: ho avuto più sì che no, anzi molti sì da tutti a questa proposta. L'ulivo, una pianta, un simbolo, qualcuno oggi sui giornali scrive un nome talismano per il centro-sinistra che ha sempre portato fortuna e che però ha un'insidia, è che ha una grande proliferazione di cespugli. La potatura degli ulivi coltivati a scopo ornamentale avviene semplicemente ripulendo la chioma dalle ramificazioni eccessivamente intricate, levando tutti i succhioni laterali, che spesso si sviluppano durante tutto l'arco dell'anno, ed anche conformando la chioma nel modo che più ci aggrada. I succhioni laterali sono temibilissimi, perché sono quelle escrescenze che vanno a deturpare poi l'armonia della pianta. E in termini politici, insomma, se ne è parlato mille volte, i cespugli sono tutti quei partiti che poi dettano legge e che con un 1% hanno una share sulla tenuta dell'eventuale maggioranza dell'eventuale governo. Un rischio che vede anche Beppe Fioroni, uno dei più critici rispetto alla proposta di Bersani. Sentiamo. Io personalmente ritengo che l'ulivo, l'unione, il primo cerchio, il terzo cerchio, l'alleanza. Io, per essere molto chiaro, sono quello che crede che un'alleanza da Ferrero Affini è qualcosa di complesso, di poco comprensibile, di molto poco serio. Così Fioroni. Naturalmente un nuovo ulivo vuole anche un nuovo inno di canzoni legate o di musiche legate. Ce ne sono state tante, dalla canzone popolare di Saverio Fossati, Ivan Fossati, a più recentemente Jovanotti. Ma insomma, qua abbiamo un Corrado Guzzanti che, nell'imitazione di un Rutelli alla Sordi, cerca l'inno dell'ulivo. Ulivo, la senti questa forza la forza dell'ulivo. forza. La forza. La forza. Forza ulivo. Forza ulivo. Forza ulivo. Forza ulivo. E forza ulivo. Ao. E forza ulivo. Ho trovato. E forza ulivo. E siamo tantissimi. E abbiamo tutti un fuoco dentro al cuore. E forza ulivo. Ammazza, e siamo bellissimi. E abbiamo tutti un cuore grande che. Un cuore grande che. Insieme con te. E questa era Guzzanti, geniale Guzzanti, come sempre, nelle vesti di Rutelli, che parla come Alberto Sordi, qua non so se era proprio quello, ma insomma il personaggio è quello, e alla fine ricasca sull'inno, questo sì, geniale, di Forza Italia. Una lite questa mattina a Onibus tra due giornalisti, David Parenzo e Paolo Liguori, sulla vera, diciamo, natura del quotidiano Il Fatto Quotidiano, un giornale che ha avuto un discreto successo negli ultimi tempi. Sentiamo come se la vedono Parenzo e Liguori sul Fatto. Il Fatto Quotidiano, che ha citato a sproposito Facci, pubblica quello che vogliono le procure e non pubblica quello che non vogliono le procure. Quando io parlo di interessi esterni al giornalismo, parlo di servizi, di magistratura, questo sarebbe l'editore di riferimento del Fatto, di affari, di politica. E voi mi dite un giornale libero è Il Fatto Quotidiano, che è il giornale delle procure. Allora non ci siamo capiti, non ci siamo capiti. Ci sono i servizi forse dietro al Fatto Quotidiano, questo almeno è quello che insomma ad ombra in qualche modo Liguori, ancora. È un giornale che dietro non ha degli imprenditori, non ha dei gruppi di pressione, non ha dei gruppi politici, non ha degli imprenditori. Ha un sistema, ha uno dei poteri costituzionali, ha una parte di uno dei poteri costituzionali autonomi che surrettiziamente usa un giornale per far uscire i fascicoli dalle procure prima che siano sottoposti alla difesa. Beh, insomma, forse i servizi no, sicuramente non so se le procure, come dice Liguori, un potere costituzionale, i giudici, eccetera, siano dietro il Fatto. Sicuramente ci scrivono degli ex magistrati come Giancarlo Caselli, Bruno Tinti, sicuramente giornalisti come Marco Travaglio hanno delle loro fonti nelle procure, e poi il resto ognuno giudichi da sé. 824 0024, tra poco con i vostri interventi. Adesso però vogliamo parlare della tessera del tifoso, lo vogliamo fare con Giancarlo Padovan. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Ex direttore di Tutto Sport, responsabile dello sport per 7 Gold, e tra l'altro Padovan, lei ha anche un ruolo, credo, anche nel istituzionale, nel calcio femminile, o l'ha avuto? Ancora. Sì, è vero, sono un presidente della divisione calcio femminile e difatti sono per strada per recarmi nella sede della Supercoppa che si disputa domani a Umbertide, e sono anche consigliere federale, quindi voglio dire un ruolo non preeminente, ma certamente di quale componente del calcio a livello istituzionale. Tra l'altro, è tutto vero. L'articolo che abbiamo letto e con cui adesso vogliamo parlare con lei è stato scritto proprio sul Fatto Quotidiano, ma nessun riferimento rispetto alla diatriba. Ho sentito la querela. Vabbè, insomma, lei credo che sia un collaboratore come tanti altri. Certo, ma poi in ogni caso va bene così, insomma, il Fatto Quotidiano è un giornale che mi dà ospitalità e che mi fa, come molti altri, scrivere il mio pensiero, e quindi di questo sono grato. La sua è un'opinione controcorrente, mi sembra di capire, sulla questione della tessera del tifoso, questione verso la quale invece molte parole positive sono state spese anche da me ieri sera, tra l'altro in diretta. Ho detto è un passo che potrebbe, non lo so, vedremo, migliorare la situazione negli stadi italiani. Invece lei ha molti motivi per essere critico, quantomeno, e però c'è una premessa che riguarda i fatti che sono accaduti due giorni fa con quelle violenze alla festa della Lega ad Alzano Lombardo. E lei dice questa è una cosa che ha messo una pietra sopra ogni possibilità di discussione. Secondo me sì, perché se la discussione non c'è e viene affidata al lancio di bombe carta o all'incendio di macchine o a terrorizzare 2-3 mila persone nella festa della Lega, non calcio, ma della Lega Nord, è chiaro che siamo fuori dal terreno del confronto, siamo fuori dal terreno dell'eccezione, siamo fuori dal terreno del conflitto antagonistico ma dialettico, siamo fuori da tutto, e quindi credo che questo sia stato un assist, per usare un linguaggio calcistico a me caro, ma anche sportivo a me altrettanto caro, a favore del governo, a favore dell'osservatorio, a favore di chi voglia far passare questa tessera del tifoso, sulla quale io non mi trovo, come dire, consenziente, ma questo però mi scusi, per altre ragioni. A me questa cosa dell'assist, però, mi scusi, mi sembra un po'. Facciamo un dato che, insomma, l'articolo lo scrive appunto sul Fatto Quotidiano, un giornale sicuramente non sulle posizioni del governo e della Lega. Lei mi sta dicendo che questa cosa è un po' sospetta, quello che è successo. Insomma, sembra fatta apposta, e sicuramente nel tornaconto di Maroni, che vuole andare avanti su questa cosa della tessera, la Lega, i tifosi dell'Atalanta che magari sono leghisti, c'è un'equivalenza? No, io non intendevo dire questo. Intanto intendevo dire che questa era una legge del contrappasso, cioè mi sembra, come dire, da contrappasso che che ad una festa della Lega Nord, cioè il partito garante della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, un ministro leghista rischi, non dico la pelle, ma insomma il ferimento. Questo era solamente una nota a margine, non c'è nessun tipo di dietrologia di questo tipo. Io dico che certamente non sto dicendo che li ha mandati Maroni, insomma, tanto per capirci, così riesco a essere più chiaro. Sì. Sto dicendo perché sai, viene il dubbio, magari sentendo appunto una affermazione come le sue, che ci potesse essere sotto un retropensiero di quel tipo. Invece no. No, scusi, avrei parlato di progetto, avrei parlato di sistema, avrei parlato di strategia, ma di certo non ho nessuna intenzione di questo genere. Sto Benissimo. Dicendo un'altra cosa, che se c'era un modo per seppellire il dibattito e per aprire il conflitto sul piano dell'intervento intervento della polizia, intervento delle forze dell'ordine, in quello che in altri tempi si parlava, si diceva, si chiamava repressione, questo sì. È stato il modo migliore. Però siccome a fare... Sì, però scusi Padovan, adesso poi facciamo una pausa per il traffico e proseguiamo, perché a fare quello che è stato fatto sono stati proprio gli ultra che vanno contro la tessera, e invece poi le conclusioni, o almeno le conclusioni che lei tira, sono che la tessera andrà avanti ancora più speditamente dopo quello che è successo. Allora io non capisco. Un attimo, traffico. La Zanzara. Rieccoci qua. Padovan, io non è che voglio fermarmi su questo punto, perché in realtà mi interessano anche gli argomenti sulla questione della tessera. Però se lei dice, se c'era un modo per fermare il dibattito su questo, era proprio quello di far casino, come è successo 2 sere fa, o i tifosi sono degli ingenui e non lo sapevano, oppure sono guidati da qualcuno. È questo I tifosi non sono guidati da nessuno, sono guidati dal loro istinto, che è un istinto belligerante o almeno di rappresentanza della guerra. Non sono né ingenui né meno ingenui, questo è il loro metodo, è un metodo antidemocratico, inaccettabile, e che di sicuro provoca una reazione, come dire, conseguente. Quindi solo questo volevo dire. Di certo è stato scelto il metodo peggiore, perché, ripeto, per essere contro la tessera o per eccepire sulla tessera ce ne sarebbero, ma dopo un episodio del genere non ce ne sono più, perché è chiaro che chi non la vuole principalmente sono quelli che tirano le bombe carta, questo è il punto. Questa schiacciatura rischia di esserci. D'altra parte, io ieri ho detto la tessera, insomma, sono d'accordo con Abete, se dobbiamo pagare il prezzo per qualche spettatore in meno, però si aprono gli stadi a tanta gente che non ci va più da tempo, allora ben venga. Invece lei mi sembra che abbia delle ragioni totalmente contrarie su questo, Padovan. Io dico che anch'io sarei d'accordo con questa tesi che ho sentito essere anche del presidente Abete, però purtroppo così non è, almeno così sembra non essere dalle stime della Lega Calcio in questo caso. E perché gli spettatori diminuiscono e stop, non è che ne vanno le famiglie, non va nessuno, cioè al posto degli ultra non è che riempiamo gli stadi con le famiglie, allora sarebbe perfettamente pertinente e logico tutto ciò, ma ciò non accadrà, almeno perché non accadrà nelle previsioni, non sta accadendo nei numeri. Poi essere contro la testa del tipo, non è che io sono contro la schedatura, cioè bene va allo stadio e per male non va, questo va bene, ma c'è già il DASPO, non c'è bisogno di una tessera del tifoso, ci sono già leggi a cui basta l'applicazione. Poi ideologicamente sono contro la tessera, perché questa è una tessera che parla. Per viene ospitata all'osservatorio del Ministero dell'Interno una parola che non c'entra niente con la sicurezza: fidelizzazione. Cosa c'entra la fidelizzazione, i percorsi, diciamo così, d'accesso facilitati o gli sconti per quanto riguarda le banche, la TIM o qualsiasi altra azienda con la sicurezza? Cioè, nulla, secondo lei è un'iniziativa nulla, non c'entra nulla. Più allora, commerciale. Se non c'entra nulla, non si deve chiamare tessera del tifoso che dà maggiore sicurezza, è una tessera del tifoso che dà maggiori facilitazioni. Del resto lo stesso capo della polizia Manganelli, prima di rettificare il tiro, aveva detto nasce per un'esigenza di fidelizzazione, quindi di marketing, quindi, niente di male, quindi... ma non c'entra la sicurezza e non c'entra la tessera del tifoso. Finisco subito, sì, sì. Dico, tra l'altro, pazzesco dire per la tessera del tifoso, voi sapete a cosa serve, meglio di me naturalmente, cioè serve per andare in trasferta. Ebbene, per andare in trasferta a seguire la propria squadra nel settore ospite. Ora, il paradosso è che se io sono tifoso della squadra X che va in trasferta, non ho la tessera del tifoso, mi acquisto un biglietto, non ho DASPO ovviamente, eccetera, mi acquisto un biglietto nominale di altro settore e mi mischio con i tifosi della squadra di casa. Posso andare, e sì. Voglio andare a far casino, chiedo scusa per il termine, lo posso fare perché nessuno mi impedisce di farlo. Sì. Allora, anche sull'efficacia di questa tessera, avrei dei dubbi. No, ma che ci siano dei limiti indubbiamente, tra l'altro ci sono state anche delle confusioni, dei ritardi, però questo è un altro aspetto. Sì, ecco, di ritardi parlavo anche, scusa se intervengo, ma volevo dire, dei ritardi, la Serie B è partita da una settimana e la terza non è stata attuata. Ora, per ignoranza, lo dico senza offesa, dell'osservatorio che fa partire la stagione agonistica, la stagione sportiva dall'inizio della Serie A. Ma che ragionamento è? È un ragionamento che non sta in piedi. Sono state giocate decine di partite di Coppa Italia, un turno della Serie B, un turno della Lega Pro, sì. E la tessera del tifoso non è stata utilizzata. Cosa significa allora? Che qualcuno la può utilizzare, qualcuno no, qualcuno prima, qualcuno dopo. Ci sono due società, palesemente hanno denunciato il loro ritardo, sono il Napoli e l'Udinese, però domani l'Udinese gioca in casa e tifosi da Genova che vanno a Udine ce ne potrebbero essere. Come ci si regolerà? Punto di domanda. Ma insomma, quindi volendo sintetizzare, una colossale mistificazione per lei questa cosa qua. Perché sì, sintetizzare sì, è perfetto, una colossale mistificazione. Cioè, perché dietro ci sono, secondo lei, più questioni commerciali che hanno a che fare con gli sponsor, con le banche, con l'acquisizione di dati, che non con la sicurezza vera e propria. Lei ha fatto una sintesi mirabile, migliore certamente della mia. No, cercavo di riassumere no, il suo. No, ma è sicuramente così, è sicuramente così. Questo volevo dire sugli argomenti, ma è chiaro che dopo Alzano Lombardo, Cioè dopo le bombe, dopo la gente che attira e dice poi sui forum io mi eccito quando vedo il sangue dell'ultranemico, il mio discorso, la mia posizione non conta più. È evidente che siamo essere dentro il recinto della dialettica o porsi fuori. Se io non voglio più pormi fuori dopo Alzano Lombardo, io voglio stare dentro il recinto della dialettica. Certo. Purtroppo la dialettica non esiste con chi sceglie queste strade. Era prevedibile, ma stavolta non ho nessun appunto da fare, né a governo, né a opposizioni, né a Federcalcio, né a nessuno, perché non era pensabile che costoro andassero lì a manifestare come hanno fatto, perché non era neanche una manifestazione, era proprio un assalto. Ma è recuperabile questa, dal suo punto di vista, questa battaglia della testa, battaglia, questa questione della testa del tifoso, oppure finirà che andrà avanti così tra le righe, tra l'altro appunto tra ritardi, problemi, credo che solo il Milan si sia regolarizzato. Sì, esatto, lei dice bene, il Milan è stato la società più avveduta. Ma è da tempo, credo. Sì, ha inviato gratuitamente, perché costa 10 euro, la tessera dei tifosi a tutti i loro, diciamo, tutti i loro abbonati o tifosi che erano stati abbonati. E quindi ha alzato miracolosamente il quorum, diciamo così, della diffusione della tessera del tifoso. Io temo, per tornare alla sua domanda, che si vada avanti fra contraddizioni e incompletezze e che ci sia, oltre che una colossale mistificazione, una colossale sottovalutazione di questa, di questo inserimento della tessera del tifoso. Hanno sottovalutato, secondo me ha sottovalutato l'osservatorio, in parte ha sottovalutato la Federcalcio, che peraltro era spettatrice, sì, in questo provvedimento, perché questo è un provvedimento di governo, un provvedimento del ministero, non è un provvedimento sportivo, è un provvedimento di ordine pubblico, e l'abbia sottovalutata anche il ministero, che pensava che partire quasi un anno prima a dire che ci sarà sarebbe stato sufficiente per sensibilizzare. Purtroppo, non esistendo dialettica all'interno di questo mondo, cioè di rapporto nei rapporti fra ultra e istituzione calcistica, figurarsi poi quella istituzionale, lei sa benissimo che gli ultra hanno un unico, primo, grande, irrinunciabile nemico, e sono le forze dell'ordine, non è l'ultra nemico. Sono le forze dell'ordine, quindi qui è diventata, come dire, ancor più ideologica la lotta, perché se ci fosse stato un minimo di possibilità di confronto, forse qualcuno l'avrebbe anche esperita, ma con l'ultra, ed è dimostrato da questo tremendo, perché per me è un tremendo evento, anche se non ha riportato tragiche conseguenze, ebbene, con l'ultra non c'è possibilità di dialogo e di confronto, soprattutto per la provenienza. Cioè, questo era un provvedimento che veniva dal governo, quindi dagli organi di polizia. Era necessariamente da boicottare. Se lo si boicotta così, lei capisce, tutti capiscono che non c'è poi nessuna possibilità di fare emergere eventualmente parti positive o parti diverse da modificare. Benissimo, grazie. Allora all'ex direttore di Tutto Sport Giancarlo Padovan. Grazie a voi, buona serata. A voi, buona continuazione. 18:28, facciamo una pausa per le informazioni di borsa e poi rientriamo con gli ascoltatori all'800-24-0024. La Zanzara. Eccoci qua, rientrati, andiamo con i titoli del TG2. Il presidente della Commissione europea Barroso a Rimini parla della crisi. In Italia dice allarme deficit, ma il paese ha retto meglio di altri. Frena l'economia USA, Bernanca pronti a intervenire. Muore bimbo di 3 anni nell'incendio in campo Rom a Roma, grave il fratellino di pochi mesi. Forse una candela lasciata accesa la causa. In Pakistan 3 operatori umanitari sono stati uccisi dai talebani nel nord del paese mentre lavoravano per portare soccorsi alle vittime delle alluvioni. In Francia corsa contro il tempo per svuotare un lago nascosto sotto un ghiacciaio del massiccio del Monte Bianco che minaccia la vallata di Saint-Gervais nell'Alta Savoia. Così dunque il TG2, adesso la sintesi di studio aperto. È morto carbonizzato nel suo lettino, tragica fine di un bimbo rom di 3 anni. La baracca in cui dormiva con la famiglia in un campo nomadi abusivo di Roma è andata a fuoco, molto grave, il fratellino di pochi mesi. Sfregiata con l'acido, è successo in strada a Torino. Una 19enne marocchina e grave rischia di perdere un occhio. Lei era a terra e quell'uomo continuava a versarle il vetriolo, racconta uno dei 3 passanti ustionati dagli schizzi. Fine settimana di grande traffico sulle autostrade, nelle prossime ore infatti molti italiani rientreranno a casa dopo le ferie. Ad aspettarli in città caldo e afa, soprattutto al centro-sud, ma nelle prossime ore le temperature dovrebbero calare. Barba incolta, occhi scavati, ecco i volti dei 33 sepolti vivi del Cile. I minatori intrappolati da settimane nel sottosuolo. Una telecamera li ha ripresi. Stiamo bene, portateci fuori da qui, chiedono, ma ci vorranno mesi. Legato ad un palo, sotto al sole cocente, senza acqua. Questo cucciolo di boxer stava per morire, lo hanno salvato i carabinieri. Ora Mariolino è in un canile e tutti lo vogliono adottare, mentre il crudele proprietario è finito nei guai. Mi manda papà, le nuove testimonial della pubblicità possono vantare cognomi e parentele importanti, da Georgia Jagger, figlia del leader dei Rolling Stones, a Zoe Kravitz, primogenita del cantante Lenny, fino alla nipote di Alain Delon, tutte belle e predestinate al successo. Abbiamo detto che in queste ore si discute del ritorno dell'Ulivo. Poco fa al meeting di Rimini il segretario del PD Bersani ha detto: non ho sentito dei no, ho sentito semmai un sacco di sì. Così tanti che non me li aspettavo neanche io. La proposta è quella del ritorno ad un nuovo Ulivo dai confini non ancora molto definiti e noi stiamo imparando a conoscerlo, a riconoscerlo così. L'Ulivo si pone a dimora in posizione ben soleggiata, evitiamo l'ombra che potrebbe causare una crescita stentata dell'albero e favorire lo sviluppo di parassiti e malattie. Si adatta a qualsiasi tipo di terreno, ma sicuramente lo sviluppo migliore si ha in terreni molto sciolti e molto ben drenati. Ecco qua, insomma, l'olivo ha bisogno di sole e poi bisogna stare attenti ai cespugli, questo l'abbiamo già detto, ai succhioni che possono crescere da tutte le parti, sono i partitini che con l'1% poi dettano legge all'interno delle coalizioni, ma del resto in politica ha dovuto farlo anche il PDL, anche Berlusconi ha dovuto annettersi Alleanza Nazionale, i Finiani, la DC di Rotondi, i socialisti, senza le coalizioni non si va da nessuna parte. La sensazione è che Bersani abbia riscoperto una cosa che c'era già. Poi ha funzionato come ognuno di noi ricorda, ma insomma una riscoperta questa qua dell'Ulivo. Ascoltatori 800 24 0024, cominciamo con Marco che ci chiama da Novara. Buonasera. Buonasera. Prego. Io intervengo a proposito della tessera del tifoso e devo riprendere quanto detto in chiusura di collegamento dal collega, dall'autorevole collega Padovan. Tra l'altro le presento le risultanze di ieri sera lavorando allo stadio di Novara per Novara Triestina. Il settore ospiti, cioè la curva della Triestina vuota e gli ultra della Triestina sistemati a fianco dei distinti e quindi del pubblico normale. Questo è in effetti quello che sta succedendo, a prescindere dalla retorica. Cioè non avevano la tessera e quindi per seguire la squadra sono andati fuori settore. Sono andati nei settori normali, per cui se la tessera del tifoso vale davvero soprattutto per evitare gli scontri tra tifosi ed evitare quello che vediamo noi operatori dell'informazione, cioè le continue provocazioni da parte delle curve per attirare a sé le forze dell'ordine e quindi giustamente, come faceva riferimento Padovan, fare guerriglia perché i nemici numero uno e i nemici giurati sono proprio le forze dell'ordine. Orbene, se questo è lo scopo della tessera del tifoso, tutto ciò va ad acuirsi, perché come potete immaginare, in settori dove normalmente non succederebbe nulla, è ancora più pericoloso e va preservato e tutelato quel tipo di pubblico da scintille, evidentemente create ad arte per ma come è finita poi la partita invece? Non dal punto di vista dell'esito, ma dal punto di vista della, no, è finita tifo. Bene, perché si trattava di una vera e propria festa, per fortuna ieri sera, con il ritorno in Serie B dopo 33 anni del Novara. Con nuovo manto, no? Col nuovo manto sintetico, ma soprattutto con una storia fra le due squadre di assoluta normalità, perché poi c'è uno storico tra le tifoserie, per cui si va a riprendere magari episodi sfortunati del passato per rivendicare cose trite e ritrite, per cui per fortuna queste due società, queste due tifoserie non avevano nulla a che rivendicare, era andato tutto molto bene, ma l'esempio direi che è assolutamente calzante. E quindi anche dal punto di vista visivo lo spazio dedicato ai tifosi della curva ospite era sostanzialmente vuoto? Non ho capito bene. No, era totalmente vuoto, perché tra l'altro tutti gli ultra d'Italia stanno esercitando una protesta anche visiva, la stessa curva del Novara ieri ha interrotto per un quarto d'ora l'incoraggiamento alla squadra, lasciando libera la parte centrale della gradinata proprio per dimostrare quello che sarebbe il tifo con la tessera del tifo. La cosa incredibile è che si possa entrare allo stadio comunque senza tessera, cambiando settore, e questo è evidente che pur essendo semplicemente non un'intenzione ma un effetto collaterale finisce per vanificare. Grazie a questo ascoltatore, giornalista credo, di Novara, che ci ha raccontato l'esordio ieri della tessera e di tutto quello che ci ha annesso e connesso. Teodoro dalla provincia, da Latina, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io volevo fare soltanto una precisazione per quanto riguarda il PD, il Partito Democratico. Sì. Il Partito Democratico, lui dice che è un olivo, secondo me è un bonsai di olivo, perché un olivo se ha i cespugli è sempre un olivo, è sempre più grande, no? Il problema è questo. Bersani si presenta un'altra volta a fare l'alternativa, ma con chi? Chi è il leader dell'alternativa di Bersani? Con quale programma? Io sono uno che vorrebbe votare anche il PD, ma non c'è nulla alla luce di tutto questo. Guardi, questa è un'altra ambiguità, perché è un'ambiguità che c'è sempre nel centro-sinistra, perché non è passata l'idea che il leader del partito più grande della coalizione, cioè in questo caso il PD, sia automaticamente anche il candidato premier, come invece avviene per esempio nel centrodestra con il PDL. E questo quindi favorisce la confusione. Del resto lei ha ragione. No, ma nel 74 il Partito Comunista aveva le carte in regola per andare al governo e non c'è andato perché non c'era un leader vero da fare da presidente. Adesso ci troviamo con lo stesso problema. Sì, abbassi la radio però perché c'è il ritorno. Chiedo scusa. Adesso abbiamo lo stesso problema. Cioè, hanno preso per due volte Prodi e giorni fa leggevo sui giornali che si sta rispolverando Prodi. Ma Prodi che è? La corazzata americana che si mette in naftalina? No, Prodi ha detto... Allora, c'è una cronaca gustosa a questo punto. La leggo, visto che lei lo citava. Ieri, nelle sue vacanze, che lui fa normalmente alla casa dei suoceri in provincia di Reggio Emilia, è andato Prodi, non so se in bicicletta o in compagnia di qualche amico o parente, a comprare i giornali. Ha visto l'intervista di Bersani, che rilanciava appunto il nuovo libro, è tutto contento, raccontano così le cronache di qualche inviato, è tornato a casa, però poi ha negato nel suo entourage. E ha detto no, non torno in politica, ormai insegno, sto in Cina, vado negli Stati Uniti, non mi interessa. Io credo che questo non sia melina, credo che sia sostanzialmente la verità che riguarda Prodi. Comunque, grazie anche a questo ascoltatore. Dove andiamo? Sentiamo ancora una telefonata, 800 24 0024, Stefano dalla provincia di Imperia. Pronto, buonasera. Senta, sì. Volevo prendere spunto da quel bellissimo pezzo che lei ha fatto sentire di Guzzanti, che per me è straordinario ed è anche proprio una sintesi politica del Partito Democratico. Ma ora addirittura una sintesi politica? Secondo me, secondo il mio modesto era una parodia, però insomma, sì. Secondo me invece è proprio l'idea, è proprio com'è il Partito Democratico adesso, cioè per cercare di vincere praticamente diventa lo sconfitto perfetto per Berlusconi, ma comunque questa secondo me è una mia idea. Ma io volevo chiedere una cosa, ma... Cioè, vuol dire, per quanto tempo deve andare avanti questa storia, sempre ogni tot periodo di tempo dell'Ulivo, mettere di nuovo tutti insieme, adesso si vuole mettere insieme pure Fini, perché non bastava il casino che c'era prima, ci voleva anche un pezzo di destra che si è spostata al centro, un pezzo di centro che va verso sinistra, cioè, ma qui siamo, allora, io non mi intendo di politica, ma siamo o non siamo alla psicanalisi? Non lo so, magari... Sentiamo che ne pensano gli altri ascoltatori. Grazie. Adesso però vorrei salutare il prossimo ospite, che è un giornalista e anche un ricercatore in questa veste, Marco Ottanelli. Buonasera. Buonasera a tutti. Autore di uno studio sulla transumanza dei parlamentari alla Camera o anche al Senato? Abbiamo esaminato, io e gli altri colleghi del giornale online democrazialegalità.it, che è diretto da Elio Veltri, certo. Abbiamo analizzato soltanto la Camera, perché il nostro è stato uno studio sulla rappresentatività, diciamo così, del Parlamento e di come questa si rispecchi poi nell'atteggiamento politico e parlamentare dei singoli eletti, visto che in questo periodo così caldo si parla tanto di questo rapporto. Infatti, premesso che non c'è nulla di male nel cambiare formazione, previsto appunto anche dalla Costituzione, che prevede appunto i parlamentari non hanno vincolo da questo punto di vista, sono liberi di seguire la loro coscienza. E d'altra parte però sappiamo che insomma è un fenomeno che spesso confina con il mercato vero e proprio dei voti e delle posizioni politiche. Quest'estate se ne è parlato molto. Il vostro studio da che cosa emerge? Insomma, mi sembra abbastanza gustoso, ci sono delle notizie che vengono fuori. Il nostro studio si è basato appunto su quello che è successo alla Camera dal momento delle elezioni di tutti i 630 deputati ad oggi e ci siamo resi conto che in soli 2 anni, quant'è insomma, che c'è il Parlamento in carica, ben 221 deputati hanno cambiato gruppo parlamentare. Una percentuale? 221 sono tanti. Percentuale pari al? Siamo in circa il 24% dell'intero. Cioè uno su 5 ha avuto una crisi di coscienza. Da una parte all'altra. Ben uno su 5 ha avuto una crisi di coscienza. Sì, una crisi di coscienza o diciamo così un interesse legittimo in un certo senso di sedersi altrove rispetto a quello che era stato designato dagli elettori. Perché è così interessante? Si è detto ogni parlamentare è libero giustamente di fare le sue scelte, il divieto di mandato imperativo è una sacrosanta norma che sussiste in tutte le democrazie, l'unica costituzione che lo vietava era quella dell'Unione Sovietica. e questo dovrebbe insegnarci molto su che cosa sono i vari tentativi di introdurre il divieto di ribaltone, che è stato sempre invocato, il divieto, sia da destra che da sinistra. Beh, però, perché dà fastidio il ribaltone, onestamente dà un po' fastidio. Sì, vero, dà noia, fa senso, fatto sta che la coscienza deve rimanere comunque libera, ma tra la coscienza deve essere anche leale, secondo noi, perlomeno. Quando un quarto dei parlamentari cambia posto, significa evidentemente che c'è una grossa crisi di rappresentanza e di rappresentatività tra il corpo elettorale che esprime il Parlamento ed il Parlamento per come si disegna. Ecco, la cosa importante, credo, di tutti questi passaggi è vedere intanto le differenze tra partito e partito, quale partito ha guadagnato. Ecco, adesso ci racconta anche questo e poi anche qualche caso particolare, però un attimo facciamo una pausa per il traffico, torniamo subito. La Zanzara. Ottanelli, già che siamo quasi a metà, legislatura, no? No, un po' meno. Esatto. Ecco, quindi, si può c'è già cominciare tempo per altri cambiamenti. Non solo, ma si può cominciare anche a fare qualche bilancio. C'è qualche storia particolare, qualcuno che ha cambiato casacca più volte e poi magari anche arrivare a quelli che sono i partiti. Allora, chi è che ha cambiato casacca più volte? Non sono in realtà moltissimi e poi i passaggi sono casomai da un partito al gruppo misto dove magari stazionano così a meditare in attesa fino a un altro che la coscienza gli porti consiglio. È chiaro, e casomai ci sono dei casi che secondo me sono interessanti perché sono cambiamenti diciamo più che immediati. Ad esempio il deputato Skande Rebek, credo si pronunci così, che è stato eletto per l'UDC, era in lista nell'UDC, si è iscritto immediatamente al PDL, cioè non ha seduto nemmeno un minuto nei banchi dell'UDC. E allo stesso modo, per esempio, ha fatto... Nemmeno un minuto, che vuol dire? Cioè, proprio la prima cosa che ha fatto entrando in Parlamento è la richiesta di essere derubricato. Esatto. Beh, questa è abbastanza clamorosa e oltre che carina come notizia, probabilmente si sapeva forse, già. Forse, sì. Può essere ancora più carino il deputato, l'onorevole Grassano, che è stato eletto per la Lega in sostituzione di Cota, quando Cota è stato eletto presidente del Piemonte. E, appunto, era in lista per la Lega, era rimasto escluso perché semplicemente prima di lui c'era qualcun altro, andando a sostituire Cota si è iscritto immediatamente non alla Lega appunto, ma alla componente politica dei liberal democratici, che è un sottogruppo parlamentare che è nato all'interno del gruppo misto che raccoglie alcuni deputati, insomma. Quindi nemmeno lui non è passato nemmeno dal via, come si dice. Sarebbe interessante chiedergli perché e per come. Per quanto riguarda, perché naturalmente ogni volta che si cambia casacca c'è un partito che perde e uno che acquista. Chi è che perde di più e chi acquista eventualmente? Dobbiamo, immagino che al centro ci siano... Dobbiamo distinguere tra valori assoluti e valori percentuali, naturalmente, perché un grosso partito può perdere tanti deputati e questo incidere piuttosto poco sulla sua forza, mentre uno piccolo ne può perdere meno, ma questo può significare... Allora, si dica le percentuali, Sulle percentuali il caso più grave, tra virgolette, è l'Italia dei Valori, che ha perso quasi il 17,5% dei suoi eletti. Non sono pochi se ci si pensa, il 17,5%, insomma, tanto, quasi uno al 20% non sono veramente pochi. E dove sono andati a finire questi qua dell'Italia dei Valori? Sono andati a finire, questa è un'altra considerazione importante da fare, praticamente dappertutto. Cioè, mentre uno pochissimi giorni dopo le elezioni, tu AD, se n'è andato nel PD, altri sono andati nell'API con Rutelli, un altro se n'è andato nell'MPA. Perché l'Italia dei Valori è un partito a guida personale, carismatica e non ha una grossa matrice ideologica. Io credo che manchi molta coesione nel gruppo dell'Italia dei Valori. Però scusi, in Parlamento. Vedendo i dati... perché lo dico, per esempio? Perché c'è un caso che secondo me è interessante, che è Giulietti, che fu eletto, certo, assolutamente, come indipendente, il quale però poi se n'è andato appunto dall'Italia dei Valori insieme ad un collega e si sono trasferiti nel gruppo misto senza aderire ad alcuna componente. Rimasti sono così, appesi. Due liberi, due capi sciolti completamente. Che anche il PDL abbia perso abbastanza. Il PDL ha perso ultimamente con la scissione finiana. Quello che si può dire della diminuzione della forza del PDL è che è stato vittima, tra virgolette, di una scissione, tecnicamente si chiama così, quindi ha perso un forte gruppo di parlamentari all'incirca il 14%, che sono tutti però confluiti in un unico raggruppamento e uno nuovo, anzi. E questo qui dei Fignani, questa era l'unica cosa che si sapeva chiaramente. Grazie. C'è un partito che guadagna, è l'UDC, ecco questo. Ecco, sì, questo infatti gli avevo chiesto, il centro festeggiano come sempre, le crisi di coscienza vengono meglio al centro che sui lati, non so perché. Infatti, esatto. E va bene, l'UDC guadagna. Grazie Marco Ottanelli, ricercatore. Grazie a lei, grazie a voi, buonasera. Insieme a Gabriele Pazzaglia sul sito democraziaelegalità.it. Ascoltatori, o abbiamo già il prossimo ospite? Abbiamo già il prossimo ospite che è Bruno Tabacci, buonasera. Buonasera. Onorevole Tabacci, tra l'altro abbiamo appena finito di parlare di transumanza, lei ha cambiato gruppo passando dall'UDC all'API. È un gruppo parlamentare vero e proprio quello dell'API? Sì. Intanto è nel gruppo misto ed è gruppo misto. Un gruppo parlamentare che consta di 8 deputati, la maggior parte dei quali erano in uscita dal Partito Democratico. Mm. Però ecco, un piccolissimo trafiletto sul Libero oggi riporta dei boatos che la darebbero un po' perplesso sull'operazione API e addirittura certo se rientrare nell'UDC sono dicerie o c'è qualcosa di vero? Ma guardi, Libero lavora sempre a fare disinformazione, quindi non c'è dubbio che... A Libero lavora proprio per fare disinformazione, proprio tout court, così me lo dice. Anche l'obiettivo è questo, io non... Io ho sempre sostenuto che c'è la necessità di costruire un'area centrale vasta, sì. Ma di farlo, non è che ho delle ambiguità sul punto, non rincorro Berlusconi, però per fare questo bisogna mettere attorno a un tavolo più soggetti, noi non è che pretendiamo di farlo da soli. Ecco, però... Casini oggi sembra oscillare nella direzione giusta con questa... intervista a Repubblica. Il movimento di Fini è certamente molto interessante, quindi ci sono delle condizioni nelle ultime settimane che forse prima non c'erano. Questo per quanto riguarda un po' lo scenario e la situazione che si è aperta con le mosse dei Finiani, però dopo il vertice di Villa Campari mi sembra che dal punto di vista della maggioranza quelle voci che c'erano di un possibile richiesta di sostegno, di appoggio sul centro e anche quindi alla pattuglia dell'API guidata da Rotelli, di cui lei fa parte, si è un po' chiusa questa prospettiva. Che fa? Berlusconi vi snobba? No, ma scusi, questa è una cosa proprio che è destituita di ogni fondamento. A parte che io non sono mai stato oggetto di nessuna sollecitazione in tal senso, perché abbiamo letto sui giornali di corteggiamenti. Come mai corteggiamenti? I giornali hanno scritto un sacco di cose, ma guardi che il problema di Berlusconi è quello di far funzionare la sua maggioranza. Il centrodestra ha 340 deputati e li chiami a sorreggere il governo, che cosa servono altri? Non è che Casini può sostituire Fini, è una politica assolutamente improbabile quella che si è ventilata nelle settimane scorse. Quindi... Ma erano solo i giornali a riferire, come ha detto Berlusconi, diciamo mucchi di notizie infondate? Lui abbia parlato o meno con Casini, sì. Certamente non ha parlato con noi e certamente io non sono interessato a fare i tappabuchi di nessuno. Chiaro. Senta, invece, dall'altra parte, lei diceva le condizioni che sono create, l'intervista di Casini... Che ne pensa del nuovo Ulivo e della secondo cerchio? Perché qua bisogna allargare. Ma guardi, mi pare che Bersani riconosce che l'idea di un partito democratico a vocazione maggioritaria è definitivamente superato e che tra l'altro quella idea è stata sconfitta alle elezioni politiche del 2008. Quindi bisogna dar vita ad una coalizione, ad una area, poi se vuole anche su due cerchi, ma certamente molto più vasta di quella attuale. Il Partito Democratico da solo non basta, sì. C'è bisogno di un'area centrale consistente con il quale il Partito Democratico possa allearsi. Nella speranza che gli ascoltatori non si perdano su queste questioni, però la domanda la voglio fare, voi sareste nel primo cerchio o nel secondo, cioè dentro un'ipotesi di nuovo Ulivo e quindi con il PD, l'Italia dei Valori e quella parte della sinistra che ci sta, oppure nell'altro cerchio l'alleanza per democratica, non ho capito come la chiama. Quella raffigurazione che lei fa, sì. Vorrei anch'io che non confondesse, però è chiaro che se si tratta di due cerchi io mi colloco nel secondo e quindi penso a convergenze tra cerchi. Quindi non a una vera e propria non piattaforma programmatica. Non immagino di collocarmi nel cerchio della sinistra, non lo sono mai stato, non c'è ragione che mi inserisca adesso. Senta Tabacci, lei è anche stato presidente della Commissione Bilancio, è un noto commentatore anche di vicende economiche e anche con grande equilibrio spesso e volentieri. Sulla vicenda Fiat vorrei chiederle un parere. A me è sembrato che al di là della querela anche giudiziaria tra i tre operai e la Fiat, che ha tutto diciamo il diritto di porre le questioni che crede, ci sia stato però un vuoto politico, no? Forse anche l'assenza di un ministro dello sviluppo, e l'ho detto più volte, avrebbe forse favorito un dibattito a livello nazionale sulla situazione economica, la competitività a livello internazionale, quali sono i livelli di reddito e di diritti che in Italia ci dovrebbero essere. Lei che ne pensa? Ma io penso che certamente il fatto che il governo sia stato molto assente, addirittura, ma anche il titolare di una delega importante come quella dell'ex industria, dello sviluppo economico. Oggi dobbiamo fare i conti con una realtà come quella tedesca, dove la ripresa c'è ed è consistente, ma c'è in un quadro di nuova definizione di rapporti tra diritti e doveri di chi opera nel settore industriale. In Germania i salari sono molto più alti, ma c'è una produttività molto più rilevante. E penso che questo problema da noi si pone rispetto alla vicenda della Fiat, che tra l'altro si inserisce in un contesto che è del tutto diverso da quello delle politiche industriali nazionali, perché oggi Marchionne deve rispondere anche al governo americano piuttosto che ai sindacati americani, e la Fiat deve operare come una multinazionale che è ormai una dei sei grandi produttori di riferimento nazionale a livello internazionale, non sono più di 6-7, a cui si è ridotto il settore automobilistico, quindi in un contesto nel quale le logiche sono molto diverse. Non si può dire ma c'è il ricatto della Serbia, è evidente che anche la dislocazione degli atti produttivi seguono una logica di efficienza. Grazie Bruno Tabacci, ci fermiamo qua, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. 18:58, ci fermiamo per il giornale radio, poi abbiamo gli ascoltatori in linea all'800 24 00 24, li sentiremo tutti. La zanzara. 19:16 minuti, ben ritrovati, 800 24 00 24, tra poco con i vostri interventi, prima titoli dei telegiornali TG3. Bersani, il governo non finirà la legislatura, molti sia la mia proposta. La russa al TG3, su incarichi e gruppi, va fatta chiarezza. Nel rogo di una baracca in un campo nomadi alla periferia di Roma muore un bambino di 3 anni. Grave il fratellino, le ruspe cancellano l'insediamento. Il contratto nazionale è il vero nodo del braccio di ferro della Fiat sul caso Melfi. Motivo? Meno ricorsi. Al TG3 l'ex segretario della CGIL, Cofferati. Una telecamera calata nella miniera dove sono intrappolati 33 minatori da 3 settimane. Saluti, pianti, commozione. Resteranno lì per almeno 3 mesi. I pastori sardi portano la loro protesta a Porto Rotondo, località simbolo delle vacanze di lusso. Lottiamo per sopravvivere. Dopo gli sbarchi degli ultimi giorni, in Puglia ci sono centinaia di profughi. Vengono da paesi come Afghanistan, Iraq, Iran e all'Italia chiedono asilo. E domani inizia il campionato, mancano quasi 130.000 tessere del tifoso. Dopo gli scontri di Bergamo, rafforzate le misure di sicurezza, si temono nuovi attacchi degli ultras. Così TG3, adesso la sintesi della giornata di Sky TG24. La crescita è lenta, avverte Bernanke, rivisto a ribasso il PIL americano. L'Italia va meglio degli altri, dice Barroso, poi aggiunge attenti a debito e deficit. Braccio di ferro PDL Finiani, per Bersani il governo non arriverà a fine legislatura. Un bimbo morto nel rogo al campo rom, Alemanno, grave lutto per Roma. Monsignor Marchetto a Sky TG24, troppi preconcetti contro gli immigrati. Emergenza senza fine in Pakistan, per l'ONU c'è un altro milione di sfollati. Tessera del tifoso, ritardi nelle consegne per il Viminale, dipende dai club. Pastori sardi a Porto Rotondo e a Montecitorio protestano i precari della scuola. L'Inter vuole il 5º titolo stagionale, sfida per la Supercoppa con l'Atletico Madrid. La Juve che vorrei a Sky, la prima intervista televisiva del neopresidente Agnelli. A forza. Forza Ulivo, Forza Ulivo, Forza Ulivo, Forza Ulivo, e Forza Ulivo. Ah, oh? E Forza Ulivo. Ehi, ho trovato. E Forza Ulivo, che siamo tantissimi e abbiamo tutti un fuoco dentro al cuore. E Forza Ulivo, ammazza, che siamo bellissimi e abbiamo tutti un cuore grande che, un cuore grande che va insieme con te. Che è copiata. È il nuovo inno dell'Ulivo, anzi è l'inno del nuovo Ulivo, non lo so, fate voi. Questo era Corrado Guzzanti con Rutelli alias Alberto Sordi alla ricerca dell'inno dell'Ulivo e non c'è niente da fare, gli veniva fuori l'inno di Forza Italia. Si parla in queste ore naturalmente di questa proposta che sembra, non dico che sembra innovativa perché sarebbe ridicolo, così che sembra gettare qualche elemento di discontinuità col recente passato del Partito Democratico. La proposta del Toberzani questa sera al meeting di Rimini, l'avete sentito anche nel giornale radio, ha ricevuto più sì che no, anche se il termine ammucchiata ricorre, insomma. Sentiamo come la vede Stracquadanio per il centrodestra. Beh, il popolo è sovrano e in democrazia non bisogna mai temere il voto. Vedo che invece da sinistra si è inventato adesso l'ulivo col giardino. Ecco, mi sembra insomma che al di là dei paragoni botanici siamo senza un'idea strategica. L'ulivo col giardino, e a proposito di paragoni botanici, noi abbiamo detto stiamo imparando a conoscerlo e a riconoscerlo anche così. La potatura degli ulivi coltivati a scopo ornamentale avviene semplicemente ripulendo la chioma dalle ramificazioni eccessivamente intricate, levando tutti i succhioni laterali, che spesso si sviluppano durante tutto l'arco dell'anno, ed anche conformando la chioma nel modo che più ci aggrada. I succhioni mi fanno morire, perché chi conosce davvero la pianta dell'ulivo sa che ci sono, nascono spesso anche in basso, sono questi... escrescenze, e sono metaforicamente, per chi ne vuol parlare, i partitini, la prima alleanza dell'Ulivo, leggevo oggi sui giornali, che ci ricordava un po' quegli anni, nel 96, oltre ai DS, ai popolari, c'erano 10 partiti. E d'altra parte le alleanze sono necessarie, in Italia questo lo sappiamo, anche il PDL ha dovuto, a parte l'annessione dei Finiani, che poi è finita come è finita, ma... c'erano elementi di destra, nuova DC di Rotondi che adesso scalpita, il PSI di Caldoro, insomma le alleanze politiche sono inevitabili. Il tema delle donne nel centrodestra, ne abbiamo parlato anche noi nei giorni scorsi, abbiamo invitato Daniela Santanchè con una visione, Flavia Perina con una visione quasi speculare, abbiamo detto ma davvero si agitano tante cose nella pancia del centrodestra, basta leggere i blog, i forum, ci sono invettive, insulti, insomma visioni diverse per quanto riguarda le donne, il ruolo politico e la loro bellezza nel centrodestra. Uno come Filippo Facci non te l'aspetteresti che dicesse cose del genere. È verissimo che nel PDL esiste un atteggiamento machista o macista, non ho mai capito come si dica, che tende a sottovalutare la donna o a tollerarla finché rimane all'interno di un alveo controllabile. E l'identikit della donna, però è un problema che riguarda solo in parte il fatto che sia donna, ma riguarda più il fatto che si tende a considerare la condiscendenza come valore principale. Questo per quanto riguarda il PDL, ma più in generale, ancora Facci, insomma, diciamocelo, io lo direi rivolto quasi alla Santanchè, che è stata nostra ospite. Ci sono le belle ma sceme, Santanchè, è inutile far finta di nulla. Certo, l'immagine della donna è cambiata, tutto quello che vuole, però ci sono, e lo dice anche Facci. Cioè, sul fatto che ci siano delle persone che siano belle, sono belle e anche brave nel PDL e non solo nel PDL, non c'è dubbio. Sul fatto che il criterio in tutto lo stivale è che queste donne per lo più siano abbastanza delle sostanziali sceme, penso che sia proprio una cosa che ho verificato in moltissime occasioni. E va bene, 800 24 00 24, sentiamo i vostri interventi e andiamo per ordine. Luca, che ci chiama da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, no, dopo la proposta oggi di Bersani, sì, sono arrivati puntuali come al solito i portavoce del PDL a praticamente a dire che si fa la solita mucchiata in modo molto sarcastico, anche un po' sgradevole se vogliamo. Ma perché probabilmente ha la memoria corta, perché il signor Berlusconi qualche anno fa ha litigato con Bossi, addirittura gli ha fatto il ribaltone, poi ha litigato con Casini, adesso con Fini non hanno molto da stare allegri, ma nemmeno loro, no? Voglio dire, perché chi ha la memoria corta probabilmente, ma chi probabilmente non si lascia influenzare dai vari telegiornali della rete pubblica o di quelli privati, che ragiona un pochino con la sua testa, certe cose le vede. Perciò voglio dire, queste cose in Italia sono sempre accadute, accadranno sempre, e non ci vedo niente di scandaloso. Anzi, io preferisco comunque stare in uno schieramento dove posso avere le mie idee, se sono condivise bene, altrimenti mi metto tranquillamente da parte e aspetto che la maggioranza decida. Chiaro. Volevo solo dirle questo. Insomma, come dire, è un pensiero. Tra l'altro, anch'io personalmente sono abbastanza di questa idea. Le idee diverse ci sono in politica, sono sacrosante, poi ci vogliono le alleanze. Il problema è che poi salta tutto quando magari i più piccoli alleati di queste alleanze poi pretendono di dettare legge. Ma questa è un'altra storia. Abbiamo, forse in attesa già da un po', Bianca Maria dalla provincia di Rieti. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Dottor Marizzi, prima di tutto le volevo fare i miei complimenti per la sua conduzione, che non mi fa rimpiangere per nulla quella di Cruciani. Mi perdoni la battuta. No, ma non è una battuta. Comunque, senta, il mio intervento era per quel povero bimbo nomade morto nel rogo nel campo nomadi di Roma. Vede, dottor Maurizi, vengono a fare qui una vita da disperati, ma non conviene allora fare una vita da disperati nel loro paese di origine? Io sono d'accordo molto con quella politica che sta facendo Sarkozy, però non vorrei che siano i rumeni, il governo rumeno, che si voglia levare da torno questa etnia scomoda. Questo non lo so, è una teoria, può darsi. Ecco, questa etnia, io ho subdoro questa cosa. Poi volevo sono molto d'accordo con lei per la tessera del tifoso, perché gli stadi devono riessere con una tifoseria bella, gioiosa e senza violenze. E poi plaudo alla cosa di Bersani di oggi, che vuole rifare l'Ulivo. Ecco, mi sembra una proposta da applaudire, insomma, in questo momento. Ecco, questo volevo dire. Grazie a questa ascoltatrice. C'è mai stata lei in uno stadio, Bianca Maria? No, io non ci sono stata, però ecco, devono tornare veramente a essere posti, sì, per dove si va con la famiglia a portare i ragazzi, uno sport veramente gioioso e familiare. Grazie. Ecco. Andiamo a Pisa. Roberto, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, niente per la tessera del tifoso. Io condivido in pieno il commento e l'opinione del suo primo ospite. Padovan, esatto. Però vorrei anche aggiungere che secondo me è proprio un problema di cultura nostra in Italia in generale, perché se guardiamo la maggior parte degli scontri purtroppo succedono fuori dagli stadi, per cui già questo... Anche questo è vero. La tessera non serve. Dopo la cultura mi riferisco proprio a noi in tutto, non soltanto a livello sportivo, perché vediamo anche nel guidare in Italia sorpassiamo sulla destra, non rispettiamo limiti, come andiamo in Svizzera rispettiamo limiti e tutto. E questo purtroppo ci porta un pochino al punto che il calcio è andato ben oltre quelli che erano gli scopi dello sport, ci sono talmente tanti interessi, gli stadi devono essere pieni perché questo portano gli sponsor alle squadre e non tanto per l'incasso in sé per sé. Ma sì, su questo non lo so, perché ormai conta che la gente stia soprattutto davanti agli schermi televisivi. Marco da Lecce, buonasera. Scusa, è chiusa. Pronto? Marco, è in diretta, prego. Sì. Mi scusi, ma io ero con l'altro telefono che mi ha chiamato un amico. Allora, che facciamo? Parliamo con l'amico o parla con noi? Parla con noi, sì. Io sono dispiaciutissimo per l'ambiguità di Casini. Io sono un elettore dell'UDC, tutta la mia famiglia. Abbiamo creduto in Casini. È una persona simpatica e tutto. Anche detto il cannello, per quella grande lingua che ha, che non ci sta nella sua bocca. Vabbè, ma a parte questo, ma perché è deluso? Io le volevo dire. Perché l'ambiguità? In cosa si manifesta? Ma lui è ambiguo perché ce la fa Confini, cammina a braccetto Confini, poi strizza l'occhio a Berlusconi, ma addirittura pure con Bersani. Ma insomma, ma lei dove lo vorrebbe mandare Casini? Cioè, no, per gli elettori, un po' di rispetto per gli elettori. Marco, io che sono un elettore che ho 50 anni. Sì, però mi dica una cosa, perché insomma, che Casini sia un partito di centro disponibile ad alleanze varie, questo lo sapevamo tutti, non c'era bisogno di arrivare adesso. Lei l'avrà votato, avrà avuto un'idea, un perché. E dove lo manderebbe lei Casini? Dico come alleanza. Ha visto come l'ha trattato quello della Lega, Bossi. Bossi ha detto no, non c'entrerà mai. Non c'entrerà mai. Io lo ammiro a Bossi. Non lo posso vedere. E non lo può votare altri, soprattutto. Perché io sono diciamo del sud, e lui a quelli del sud insomma, non è che li ami poi tanto. Ma lo voterebbe se si presentasse? A chi? A Bossi? Per questo motivo no. Però le dico una cosa, lui i suoi elettori li tratta molto bene, Bossi li difende, li sa difendere. Se io fossi questo un leghista lo ammirerei molto, non sono un leghista. Deve solo cambiare fede di partito, poi a posto. Non è facile. Io le posso dire una cosa, io ho un sacco di parenti da quelle parti, sono tutti leghisti, guai a chi glielo tocca. Guai a chi gli tocca i vari leghisti, vari. E invece poi Casini non si occupa dei suoi elettori, cioè li tradisce perché flirta con tutti. Casini non si frega di nessuno. Ma perché l'ha votato? Scusa. Lui c'ha quella grande lingua che non gli sta neanche in bocca. Per quanto è grande, pronto a leccare chiunque. Ma perché l'ha votato allora? Poteva votare. No, non lo voterò mai più. Io se mai le volevo chiedere un'altra cortesia. Posso, però esula. Allora facciamo così, aspetti. Ha sempre quegli occhi spiritati. Chi l'ha spaventata alla Carfagna? Basta, ho chiuso. Non è una cosa, è una cosa lecita se vogliamo. Siccome c'è sempre quegli occhi, madonna mia, ho visto il nostro. No, vabbè, ma perché, poverina, scusi, è una sua espressione, ma non è che si può attaccarla per questo. Va bene, dai, fermiamoci qua, anche perché siamo andati lunghi sulle informazioni di Borsa. La Zanzara. Che cosa ne direste se in Italia qualcuno proponesse in un carcere italiano, al posto delle sovraffollate salette dove avvengono i colloqui tra i detenuti e i loro familiari, uno spazio apposito, lontano dagli occhi indiscreti dei sorveglianti, delle telecamere, se questo spazio fosse addirittura una stanza, una baita in montagna tra gli alberi, con tanto di letto matrimoniale per avere rapporti coi partner e addirittura fornitura di preservativi. Ebbene, tutto questo accade già, per la precisione, nel carcere di Lugano, e noi abbiamo convocato questa sera il direttore dell'istituto, Fabrizio Comandini. Buonasera. Buonasera. Senta, è giusto quello che io ho spiegato, è così? Come nasce questa vostra iniziativa? Sì, quello che ha spiegato è giusto, forse con parole quasi di Lia, che comunque è vero che noi disponiamo di una casetta che chiamiamo La Silva, che si trova all'interno della cinta del penitenziario, dove i detenuti possono incontrare i loro familiari o le loro compagne, può esserci famiglia come un'amica o anche dei semplici conoscenti, per passare alcune ore, 6 per la precisione, in totale privacy. E quindi questa casetta è una cosa eccezionale per favorire i contatti tra i detenuti che stanno dentro e i familiari o i loro parenti o la loro compagna che stanno fuori. Perché voi dite che il contatto con la famiglia è fondamentale se si vuole puntare davvero al reintegro di queste persone. È un po' questa la filosofia, no? Esattamente, ma non siamo solo noi a dirlo, ma è il nostro codice penale che prevede ai suoi articoli 75 rispettivamente 84, che le relazioni con il mondo esterno sono fondamentali per reintrodurre, per reintegrare la persona condannata nella società. Parliamo naturalmente di persone già condannate, quindi non quando l'inchiesta è in corso, ma coloro che devono scontare una pena, noi riteniamo sia giusto che la scontino, cercando però di mantenere il più possibile i legami con il mondo che sta fuori, e tra questi legami rientra senz'altro anche il mantenimento dell'affettività nei confronti della propria moglie e della propria famiglia. Ma senta, ma non c'è il timore che insomma, lontano appunto dai controlli in questa baita isolata, per quanto all'interno del carcere possano poi avvenire scambi di notizie o anche di cose, non lo so, informazioni, che quindi si possa eludere un po' il tema della sicurezza? No, perché parliamo di persone appunto già condannate, quindi la sicurezza a livello di scambio di informazioni, di rischi di collusione, passa completamente in secondo piano, e comunque è all'interno della cinta, semplicemente garantiamo la privacy alle persone, ma d'altronde lo facciamo anche in altri spazi. Abbiamo una saletta dove all'interno della struttura stessa, dove però il condannato può incontrare per 2 ore il proprio partner o la propria famiglia e pranzare assieme. Anche in questo spazio è la privacy ad essere garantita, ma in fondo il rischio di fuga non c'è comunque, perché è pur sempre all'interno della cinta del penitenziario, e è apprezzatissimo appunto che ci sia questa privacy, però quindi niente telecamere, niente ascolti e niente presenza di un agente che osserva quello che si sta facendo. D'altronde, se lei pensa ad una affollata sala ai colloqui, anche sì, noi, dove si svolgono i normali colloqui, si capisce benissimo che se vogliono scambiarsi delle informazioni lo fanno durante un colloquio ordinario, non hanno bisogno di attendere i colloqui speciali per scambiare informazioni. E d'altra parte, per avere un contatto vero con la famiglia, sicuramente una sala dove ci sono decine e decine di persone che parlano ad alta voce non è senz'altro l'ideale. Senta, ma ci sono anche altre iniziative all'interno del carcere che riguardano i colloqui con i bambini o addirittura anche la possibilità di organizzare dei pranzi che voi fate? Sì, appunto, poter pranzare con la propria famiglia è una delle misure che noi prendiamo per rinsaldare o per mantenere i legami con l'esterno, ma abbiamo anche le videoconferenze, pensando ai detenuti stranieri che non hanno dei familiari vicini, gli permettiamo di fare delle videoconferenze, delle chiamate, delle telefonate con videoconferenza con i loro familiari che stanno magari in Brasile piuttosto che in Africa. Poi abbiamo dei colloqui speciali che chiamiamo Pollicino, e sono dei colloqui questi fatti per sotto i bambini, la responsabilità di operatori specializzati, psicologi, sì, per mantenere il contatto con i bambini. Quando il genitore è in carcere, spesso il bambino fatica, o il genitore stesso fatica a spiegare al bambino qual è la situazione, ecco che ti accompagniamo in questo processo di spiegazione con dei colloqui che avvengono in un ambiente speciale, rispettoso anche dei, dei bisogni dei bambini e accompagnato da personale specializzato. Senta, ma non avete il timore di ricevere qualche critica? Non so, l'opinione pubblica, per esempio, come giudica queste iniziative? Non avete il timore di essere giudicati troppo generosi nei confronti di detenuti che magari si sono anche macchiati di reati, insomma, importanti? No, non riteniamo di essere troppo generosi, anche perché, ripeto, è un mandato legislativo, è il codice penale che ci dice di mantenere i legami con l'esterno. Se poi pensiamo che queste persone che sono rinchiuse per lunghi periodi, un giorno o l'altro dovranno rientrare nella società, abbiamo tutto l'interesse come società a fare in modo che non perdano i contatti con i propri familiari e con la propria moglie, perché altrimenti se interrompiamo totalmente questi contatti, compresi i contatti sessuali in fondo, quando poi il legame si è rotto e la persona è di nuovo catapultata nella società, si troverà completamente a sbalzo e la probabilità che ritorni a delinquere è molto più alta. C'è poi ancora un altro aspetto, che sì, è quello della sicurezza interna. I detenuti che devono andare, che hanno la prospettiva di andare, sì, a fare un colloquio di questo genere, a passare 6 ore con la propria moglie, è un incentivo a un comportamento corretto, certo, prima, e a essere riconoscenti dopo e comportarsi bene anche dopo. Diciamo che a essere corretti c'è un premio, un forte incentivo, che poi è questo ampio spazio, questa possibilità di ore da vivere in isolamento con i parenti. Certo, è un forte incentivo ad avere una buona condotta. Senta, ma in termini di risultati di questa vostra iniziativa, avete già avuto modo di valutare un po', di tenere sotto controllo quelli che sono i risultati positivi in termini di reintegro e anche di sicurezza interna? Ci sono delle storie che magari ci vuole raccontare, non lo so. Risultati sull'esterno non possiamo misurarli, evidentemente. Sull'interno, come dicevo prima, il risultato estremamente positivo è quello di tenere tranquille le persone e di riflesso anche l'ambiente, il clima nel penitenziario. Sanno tutti che se qualcuno sgarra quando ha ricevuto una facilitazione di questo tipo, poi il rischio è che la facilitazione salti per un certo periodo per tutti. Ah, c'è una regola in questo senso che lega tutti, sì, diciamo, i detenuti tra loro? No, non c'è la regola, però se qualcuno abusasse di questa facilitazione, evidentemente introdurremmo un regolamento più restrittivo e quindi aperti sarebbero tutti gli altri. In tutti i penitenziari è un po' così, in fondo. Senta, ma il vostro è un penitenziario particolare, oppure è questa iniziativa, secondo lei, visto che siete a pochi chilometri dall'Italia e di problemi con le carceri, l'Italia ne ha parecchi, è una cosa che si potrebbe estendere, consiglierebbe anche agli istituti italiani? È una cosa che senz'altro consiglierei anche a tutti gli altri istituti. Il nostro non è un carcere né speciale né modello, è un carcere simile a tanti altri. Abbiamo effettivamente un problema in meno rispetto ai carceri italiani, che noi diciamo che siamo affollati quando tutte le celle che sono individuali sono piene, però non abbiamo una situazione di vero sovraffollamento. Del vero sovraffollamento, in fondo. Capisco che quando si ha un sovraffollamento continuato è molto più difficile mettere in atto misure di questo tipo, che da noi è nato da parecchi anni. E va bene, grazie allora a Fabrizio Comandini, buona serata, direttore del carcere di Lugano, per questa interessante esperienza. Grazie, buona serata. Insomma, questo è quello che succede, avete sentito, a Lugano, nella vicina Svizzera. Non lo so, una cosa del genere si può fare anche in Italia, che ne pensate? 800 24 00 24, ci sono già degli sms al 3492386666. Un ascoltatore dice sì, meglio del 41 bis, Rina in montagna, un bel titolo per il Corriere della Sera. Non so che ci azzecca il Corriere della Sera, però Rina in montagna. Ma non bisogna pensare solo a Rina quando si pensa ai carcerati, cioè ai grandi boss mafiosi, evidentemente non c'entra nulla, qua si parla magari di detenuti minori. Comunque, questa è l'esperienza della Svizzera. Riprendiamo con i vostri interventi, e chi abbiamo? Nicola dalla provincia di Treviso, buonasera. Sì, pronto? Prego. Sì. Buonasera, l'acustica è molto meglio alla radio, vabbè. Buonasera, allora un ringraziamento a tutta la radio, non solo a lei, fate programmi ottimi. Grazie. L'intervento riguardava la questione della tessera del tifoso. Sì. Personalmente non so esattamente come funziona in tutti i suoi, in tutte le sue parti, ma credo che, come sempre, forse nel nostro paese ci stiamo affrontando il problema in maniera nella direzione sbagliata. Altri paesi hanno avuto lo stesso problema, tipo l'Inghilterra con gli Unions, e il problema è risolto, ovviamente, però penso che l'impianto normativo e giudiziario italiano non possa sostenere un genere di provvedimento come quello dell'Inghilterra. E questo però va risolto in quel senso, non cercando soluzioni morbide o, come dire, di comodo, perché non è possibile che uno sport, che deve essere una cosa sana e gratificante, tenga in ostaggio uno Stato. È abbastanza brutto. Io sono uno sportivo, personalmente pratico molti sport, quelli che non pratico seguo, e in quasi tutte c'è una componente molto etica. Il calcio è quello che ormai è diventato il meno etico, il meno sportivo, è quasi inutile. Quindi, non quindi è lei ha perso le speranze, insomma, di poter... Io ho giocato anche a calcio, sì. Già nel settore giovanile si percepisce questa cosa, ed è male, molto male. Per forza è diventato è un'industria, è come il settore primario, secondario, terziario, abbiamo il calcio. Perché va bene. È questo, almeno. Ma io non la penso così, ma insomma non importa. Ci sono degli altri sms, ritorno all'argomento carceri, con l'esperienza che abbiamo raccontato di Lugano, che dicono la reclusione è proprio anche la separazione dalla società in generale che il recluso ha dimostrato di non rispettare. È ridicolo questa cosa svizzera. Invece non sono d'accordo, perché dove è scritto che è la separazione per questioni di sicurezza dalla società, e poi c'è ovviamente una pena da rispettare per anche per una questione di risarcimento della società, questo sì, però sappiamo anche tutti che le porte del carcere si aprono una volta all'ingresso, ma si riaprono sempre anche un'altra volta in uscita, e allora se vogliamo che le persone che escono non siano peggiori di come sono entrate, dobbiamo pensare a quello che succede nel mezzo, o no, ascoltatori? Su questo vorrei sentire i vostri interventi, 800 24 00 24. Marco dalla provincia di Ferrara, buonasera. Buonasera, io intervengo però su un altro argomento. Sì, perché... sì, no, ma io l'ho lanciata così, no, vada certo. Pure. Sì. No, io volevo intervenire sulla proposta di Bersani di un nuovo Ulivo e volevo semplicemente fare due considerazioni. Penso che la crisi della sinistra sia prima di tutto culturale, prima che politica. E quindi c'è un lungo processo da svolgere prima di raggiungere delle soluzioni. È una nuova cultura democratica, penso che non debba rincorrere quella berlusconiana, un po' come faceva Guzzanti nel cercare un inno per l'Ulivo e poi andava a finire in quello di Forza Italia, ma deve cambiare visione, e una nuova visione la possono avere solo persone nuove. E qui vengo con la seconda considerazione sull'Ulivo. Se non era, cioè l'Ulivo era l'unione dei cattolici democratici con i post comunisti, questo almeno era nell'idea primaria, sì, di Prodi. Io poi sono un elettore della Margherita che poi non ha più votato il Partito Democratico perché non ci ha creduto, perché pensavo che la Margherita fosse già l'Ulivo. O comunque il Partito Democratico fosse già nella Margherita, perché ero convinto che la Margherita e quindi il Partito Democratico dovesse fare un discorso più di, diciamo, di centro-sinistra, e i DS invece di cercare di sfondare sempre in centro avrebbero dovuto, a mio avviso, insomma, sostenere la sinistra, portare avanti e quindi riaggancio il discorso di prima, la cultura della sinistra. Invece i DS hanno cercato di sfondare al centro, hanno creato tutto. Vabbè, quello adesso che hanno però non facciamo di nuovo la storia di tutto il PD e dell'Ulivo, se no non la finiamo più. Grazie comunque. Andiamo a Corrado che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera, grazie per avermi richiamato, vi ruberò soltanto un minuto. Sì. Io chiamavo per la questione delle carceri, ho sentito l'intervento da Lugano. Sì. Io volevo proporre soltanto uno spunto di riflessione, riferendomi a una esperienza del passato, ma personale per esempio delle forze armate in missione all'estero, che fa anche 6-8 mesi fuori, non mi sembra che abbia opportunità del genere. Non è che hanno fatto nulla di male, no? Tutto sommato. Ora, in che senso non hanno opportunità del genere? Perché qua si parlava di un luogo dove i familiari possono incontrare i detenuti. Per incontrare, sì. Poi non so, poi uno dentro può fare ciò che vuole, sia avere una relazione... Sì, sì, anche rapporti sessuali, perché poi questa è anche un'esigenza. Parliamo anche di questo. Cioè, sì. Ora, un militare in missione all'estero per 8 mesi, cosa può fare? O tradisce la moglie oppure evita. No, però si vorrebbe obiettare che l'ha scelto lui per la vita. Ma a parte che l'ha scelto, perché anche però, chi commette un errore. Non voglio dire che c'è qualcuno che non ha titolo a starci. Però mi scusi, non capisco del tutto il paragone, perché il militare all'estero non dispone del familiare perché è all'estero. E quindi se il familiare può andare, poi è poco probabile che possa andare in un terreno di guerra, no? Questo lo ammetterà. Quindi chi lo risolve questo problema? No, appunto, non è risolvibile. Non vedo perché una cosa del genere dovrebbe... Cioè, chi sta in galera incontra la famiglia nel parlatorio. Cioè, non è che tutto questo bisogno della privacy, sinceramente io non lo vedo. Ma... No, ma la sua posizione è legittima. Non capisco i militari all'estero cosa c'entrino. Secondo me non c'entrano... No, io parlo di chi... Non parlo di chi è all'estero, io parlo di chi è fuori. Io ho fatto un esempio del militare all'estero, ma chi è fuori... Sì. Per lavoro, per missione, per qualunque incarico che non gli consenta di vedere la famiglia. Ma chi è che si dovrebbe occupare di questo? Insomma, non capisco. Mettiamo che io non vorrei cambiare la situazione militare, non credo che dovrebbero avere di più i militari. Dico soltanto che probabilmente non dovrebbero avere di più neanche chi per motivi vari è temporaneamente impossibilitato a passare del tempo in private con la famiglia. Lo farà quando uscirà di prigione. Ma nel caso di detenzioni lunghe, che facciamo? Nel caso di missioni lunghe cosa facciamo? Infatti io mi rendo conto che sembra un po' una provocazione, non è che voglio... No, ma ognuno ha poi le sue opinioni. Uno spunto di riflessione, non è che a tutti è garantito costituzionalmente l'incontro con la famiglia in privacy per un certo numero di ore. Sinceramente che il carcerato ne abbia bisogno, probabilmente se lo merita avrà delle uscite premio, se non lo merita non lo avrà. Non so, non vedo molto questa esigenza. Non vede questa esigenza. L'esigenza è un'esigenza, io credo che il direttore del carcere Lugano l'abbia spiegata abbastanza bene, un'esigenza umana, molto semplicemente legata ai bisogni fondamentali e anche al bisogno di avere un filo diretto con la famiglia quando c'è, per come dire, facilitare poi il percorso di reintegro, perché io ripeto, si entra in carcere, poi si esce, si ritorna nel mondo, e allora come si ritorna? Come sono queste persone? Non è giusto anche occuparsi di quello che succede nel frattempo, in quell'intramezzo che c'è tra i due momenti. Giovanni dalla provincia di Reggio Emilia, prego. Sì, buonasera. Prego. Non c'è più, no, il Tabacci? No, è stato con noi all'inizio, sì, alle 18:30. Ecco, no, perché nonostante io la pensi un po' diversamente da lui si è dichiarato una persona di centro, io mi ritengo una persona di sinistra, anche se a questo punto andrebbe approfondito che cosa significhino queste espressioni di centro, di sinistra e anche di destra. Volevo comunque fargli i complimenti, perché mi sembra che Tabacci sia stato uno di quelli coinvolti in Tangentopoli che invece ne è poi brillantemente uscito, non come il nostro attuale Presidente del Consiglio che cerca di difendersi da tutti i suoi processi, da tutte le sue tendenze passate, presenti e chissà anche future. Quindi volevo solo... Non ricordo il passato da questo punto di vista di Tabacci, ma non ho capito in che senso... Lei citava la questione Tangentopoli. No, nel senso che, voglio dire, mi sembra che lui abbia affrontato, diciamo, le sue traversie giudiziarie. Ah, ecco, in quel senso, sì. Va bene. Mentre invece noi abbiamo un Presidente del Consiglio che, anziché pensare di governare, pensa soprattutto ai suoi affari, ai suoi interessi personali, insomma. E quindi volevo fare i complimenti, perché secondo me in Italia c'è proprio bisogno di persone come lui, anche se io politicamente mi ritengo... Sono sempre stato da un'altra parte. Sì, va bene, questo l'aveva già detto. Grazie. Andiamo a Lorenzo, che ci chiama da Milano. Buonasera. Buonasera. Anzitutto mi associo ai complimenti per la sua conduzione della trasmissione. Spero che rimanga in mano a lei, perché Cruciani è arrogante con chi interviene e servile con i suoi ospiti. No, sono... Sì, assolutamente. Comunque, io volevo parlare Siamo persone diverse, tutto lì. Comunque sì, Cruciani ritorna. Spero che rimanga in mano a lei. No, invece torna lunedì Cruciani. Ma l'ha deluso lei, contenti allora, gli altri. Volevo parlare dell'Ulivo. Sì. Secondo me è un enorme nuovo carrozzone che rischia di spaldarsi alla stessa maniera. Non ha senso inglobare i partitini e la nostra politica, secondo me, è troppo vile, troppo clientelare per fare quelle minime modifiche che non aggiusterebbero tutto, ma permetterebbero già con una legge elettorale così di ottenere qualcosa di discreto. E queste tre modifiche, che non fa comodo ad alcuno, secondo me, a mio modesto avviso, ho studiato qualcosa, ma magari dico delle sciocchezze, non credo, sono il primo il divieto di apparentamento, in modo che la soglia di sbarramento, quella è e quella rimane, la superi, entri in Parlamento, non la superi, non entri. La seconda è che la soglia di sbarramento sia anche la soglia alla quale percepire i finanziamenti, perché la gente a volte tende a dimenticarselo. Col 4% io entro alla Camera, ma con l'1% sono fuori ma piglio i quattrini. Sì. Quindi comunque io li foraggio. E la terza, io rispetto alla questione di coscienza di cui avete parlato prima, e sono assolutamente convinto che i parlamentari debbano avere questa questione di coscienza, ma il gruppo misto va eliminato, perché i regolamenti parlamentari sono fatti affinché non ci siano i cani sciolti che in quattro gatti mettono in crisi il governo. Il gruppo misto è esattamente questo, un modo per aggirare le regole e le quantità minime per formare un gruppo. Ma sui regolamenti parlamentari io non sono assolutamente, sono lontano anzi dall'essere un tecnico, però ho sentito parlare anche in coda alla scorsa legislatura con una certa insistenza di questo tema. Credo che sia sicuramente una cosa da fare, perché sicuramente ci sono delle anomalie nel sistema italiano. Noi abbiamo parlato con questi ricercatori di democrazia del sito democrazialegalità.it, che hanno fatto una ricerca sulla transumanza, sono quasi il 20% e in soli 2 anni sono passati da una parte a quell'altra, e quindi è evidente che c'è qualche cosa che non va. Lei ha dato dei suggerimenti, chissà. Grazie. Andiamo al prossimo intervento. Silvio da Milano, buonasera. Buonasera, dottor Maurizi. Senta, io volevo solo intervenire sulla proposta del compagno Bersani, no? Sì. Ecco, per quanto riguarda la rifondazione o la riproposizione dell'Ulivo. E intanto per 2 domande. La prima è, ma il PD cosa l'abbiamo fatto a fare, no? Prima. Poi la seconda, in buona sostanza, è comunque c'era qualcuno un pochettino con una filosofia più brava di Bersani a tenere, diciamo, la mentalità ulivista, che è stato mandato via, no? Lei ha presente a chi mi riferisco, no? In buona sostanza. Lo dica. Veltroni, che comunque non è nient'altro che l'interfaccia comunque di Prodi, no? Ecco, sotto quell'aspetto lì, diciamo, perlomeno nell'orientamento e nella filosofia. E poi parliamo tanto delle confusioni in casa degli altri, ma insomma, a me sembra di vedere, caro compagno Bersani, ma tu la confusione, insomma, comincia a mettere dei paletti chiari. A questo punto di chiaramente che hai butti la spugna e dai, fatti un attimino, dai spazio anche ai giovani, dai. È questo un po', dai. C'è qualcuno nei giovani che lei vede che... Ma guardi, adesso non voglio fare nomi, ma a Firenze, insomma, qualcuno ci potrebbe essere. Lei è così, non vuole fare nomi, poi li fa. Renzi, dai. Matteo Renzi. Renzi, vai. Le piace Renzi? Mi piace tantissimo, la dice com'è, dai, veramente. Beh, quel vantaggio ce l'hai, ne fai, perché è vero che Bersani, che pure è una persona schietta da molti punti di vista, però questo suo modo di parlare obliquo a volte, e poi comunque è costretto, io dico costretto in un sistema un po' da politica del caminetto, no? I veti incrociati dei vari leader del PD, a volte appare un po' lontano, invece uno come Renzi sicuramente è tutt'altra scuola. Va bene, voleva aggiungere qualcos'altro o no? No, veramente, la ringrazio per l'intervento. Grazie a lei. Grazie. A lei. Facciamo una pausa, ci fermiamo, torniamo con i titoli di TG tra pochissimo. La Zanzara. E rientriamo con Andrea che ci chiama da Asti. Buonasera. Buonasera. Prego. Oggetto tessera del tifoso. Sì. Non sono né tifoso e di conseguenza non frequento gli stadi in questo caso. Però prima parlava, mi sembra, l'ex... Un attimo, la fermo un attimo, facciamo i titoli di TG, mi scusi, TG1. Rogo in baraccopoli a Roma, muore un bimbo rom di 3 anni, grave il fratellino, Alemanno, lutto che colpisce la città. Giovane marocchino sfigura con l'acido una connazionale 19enne, Vipiteno, convalidato l'arresto del rumeno che ha ucciso con il tir. Bersani, il governo non finirà la legislatura, replica Bonaiuti, torni sulla luna, Cicchitto e Finiani, sostegno leale a processo breve. Un altro milione di alluvionati in Pakistan, in un attacco dei talebani uccisi 3 operatori, ma le organizzazioni umanitarie non lasciano. Domani a Roma il colonnello Gheddafi, lunedì l'incontro ufficiale con Berlusconi, top secret del programma del weekend. È cominciata la stagione dei funghi, ma sono già molte le vittime tra i raccoglitori. Dal Corpo Forestale dello Stato un vademecum per la sicurezza. Non andare mai da soli, attenzione al meteo e ai funghi velenosi. E allora TG5. Per il presidente della Fed la ripresa è ancora lenta. Barroso, Italia meglio di altri paesi, ma attenzione ai conti pubblici, borse europee in altalena ma positive. Il Vaticano e l'ONU contro la Francia per le espulsioni dei Rom, sono già state vittime di un olocausto, la replica francese, rispettata la legge. Un bambino di 3 anni morto nell'incendio di una baracca in un campo nomadi di Roma, grave il fratellino di 3 mesi. Le immagini e le voci dei minatori cileni bloccati a 700 metri, siamo forti ma non ci abbandonate, verranno estratti non prima di 3 mesi. Milioni su strade e autostrade per il controesodo, prime code, temperature ancora in salita al centro-sud, il picco tra oggi e domani. Tartarughe azzannatrici, pitoni, antilopi, in Italia sempre più florido il traffico di animali esotici, ma anche loro spesso vengono abbandonati e le città sono in guerra contro i topi. Al via il campionato di calcio con l'incognita della tessera del tifoso, emesse poco più della metà di quelle richieste, il pericolo degli ultra. Hai sentito, emesse poco più della metà delle tessere richieste, questo è un po' incredibile, ci sono dei tempi tecnici ovviamente, ma boh, ci si poteva pensare prima, è da un anno che va avanti questa storia, chissà. Avevamo lasciato Andrea da Asti in sospeso, eccoci, prego. Eccoci qua, allora dicevo, premetto sì. Che non sono né tifoso di calcio e di conseguenza non frequento gli stadi. Mm-hmm. Sentito prima l'intervento dell'ex direttore di Tutto Sport, dove diceva una sua opinione che era quella che il tifo, l'ultras va allo stadio solo per attirare e aizzare una sorta di guerriglia, non nei confronti dell'altro tifoso ma nei confronti della polizia. Volevo soltanto a conferma, se mi posso permettere, sì, di questo, che io 30 anni fa ho lavorato per la SIAE, che si occupa dell'accertamento dei biglietti, il controllo degli ingressi allo stadio. I problemi più grossi che avevamo noi come SIAE erano quelli di contrastare la gente che provava ad entrare allo stadio, sì, ma non provava ad entrare allo stadio per poi vedere la partita, provava ad entrare allo stadio solo per fare confusione. Faccio un caso banalissimo, abbiamo intercettato 2 ragazzi che stavano scavalcando una cancellata rischiando di farsi male perché c'erano tutti degli spuntoni, abbiamo chiamato la forza dell'ordine. La forza dell'ordine gli ha detto, dai, vieni dentro, entrate dentro che vi facciamo entrare, se no vi fate male. La risposta è stata, no, ce ne andiamo, adesso ormai ci avete preso, proviamo da un'altra parte. Vabbè, comunque, non lo so, io credo che allo stadio c'era tantissima gente con intenzioni più diverse. Certo, no, questa qui è la mia esperienza, sì, minima, molto ristretta, sì, sì, però quasi a conferma che in 30 anni però non è cambiato l'atteggiamento di certe persone allo stadio. Ah no, da questo punto di vista i malintenzionati sono sempre... Poi gli altri 70.000 che vanno allo stadio sono persone correttissime, però per certi tipi di persone in 30 anni mi rendo conto che da esterno che non è cambiato nulla. Grazie, e completiamo, il dialogo... completiamo okay. I titoli della sera con la 7. È di nuovo braccio di ferro tra PDL e Finiani, la russa sui coordinatori locali del partito. Sostituiremo chi non ha più la nostra fiducia, secca la replica di Futuro e Libertà. Non possono impedirci di fare politica, Bossi ha mandato Cota a trattare con Fini. Il governo non arriverà alla fine della legislatura, il disfacimento è profondo e possono solo vivacchiare. Parola di Bersani che rilancia il nuovo Ulivo che a sinistra non piace a tutti. Abbiamo seguito il comizio di Renzo Bossi, figlio 22enne del senatore. Di lui papà un giorno disse, ma che delfino, tutto al più è una trota, soprannome che gli è rimasto appiccicato. Tragedia in un campo nomadi alla periferia di Roma, muore un bambino di 3 anni, gravemente ferito il fratello di 3 mesi. Si riapre la questione degli insediamenti Rom nelle nostre città. Bruno Vespa, conduttore del Festival di Sanremo, in coppia con Belen. La notizia anticipata da Dago Spia fa il giro delle redazioni, ma l'interessato smentisce, lusingato, ma faccio un altro mestiere. Tra poco l'Inter scende in campo a Monte Carlo contro l'Atletico Madrid, in palio la Supercoppa Europea, possibile quinto titolo consecutivo, l'unico che manca nella bacheca nerazzurra. Dalle 6 le Morning News, poi 4 edizioni del telegiornale, per la prima volta diretta streaming su YouTube, tutto con una nuova veste, queste altre numerose novità nel nuovo TG La 7 da lunedì. E ci sono un sacco di telefonate stasera all'824 0024 da Milano e si vede sono tutti rientrati dalle vacanze. Aiaiai. Allora, poi anche molte altre città. Dove andiamo? Andiamo proprio a Milano. Beppe, buonasera. Buonasera a lei e grazie. Io volevo intervenire in merito a quanto sentito dal direttore del carcere di Lugano. Sì. Io ritengo molto obiettivamente che è giusto fare di tutto per cercare di trovare delle soluzioni positive per reinserire i reclusi una volta usciti nella società, ma trovo, tra parentesi, presumo che quel genere di trattamento viene riservato a chi ha una buona condotta. Prego? A chi ha una buona condotta sicuramente. Sì, a chi ha una buona condotta, sì. Ma chi ha subito anche una pena detentiva abbastanza lunga, perché non credo che sia riservato alla... Sì, anche questo ha detto il carcere, il direttore del carcere ha detto. Esatto. Sì. Allora, dal mio punto di vista Lugano è il paradiso terrestre per questa gente, perché a un certo momento... Con la buona condotta si può anche avere una bella villeggiatura. Secondo me determinati crimini devono essere puniti in maniera giusta, corretta, umana, ma severa. Secondo me è un pannicello caldo questo, credo. Perché un pannicello? Cioè il fatto che ci voglia severità è un punto di vista e va bene. Poi il fatto che comunque ci voglia anche umanità e soprattutto bisogna pensare al reintegro, questo è quello che ho detto io e quindi è un altro punto. Altro aspetto, la buona condotta è un elemento positivo, cioè uno è spinto a comportarsi bene perché sa che c'è un premio. Perché un pannicello invece? Certo, perché io sono convinto che la reiterazione del reato è indipendente da quella che può essere la buona condotta del momento, perché lei mi insegna che se il bambino, se è bravo, dai genitori può ricevere la caramella, ma ciò non toglie che una volta che ha ricevuto il premio il bambino possa nuovamente fare il discolo. Quindi questa eccessiva attenzione e dare queste opportunità che sono veramente al limite della vita normale, soprattutto a chi ha tolto la libertà a qualcuno o ha tolto dei beni, secondo me è giusto sino ad un certo punto. Grazie. Il discorso che lei fa... il punto mi sembra è sul fatto che il comportamento sia indipendente rispetto al premio o incentivo o al disincentivo, insomma, e quindi il comportamento anche criminale, e questo è un punto di vista. È chiaro che con quella premessa non serve a nulla fare delle cose, dare degli incentivi e dei premi a chi si comporta bene, perché poi sarebbe solo una presa in giro. E d'altra parte c'è anche chi la pensa diversamente. Grazie comunque, sono le 20:10, facciamo un break, torniamo tra pochissimo. La Zanzara. Ad Amatrice, in provincia di Rieti, si svolge, credo ogni anno, la sagra degli spaghetti alla matriciana, giacché è da lì che nasce anche il nome del sugo. Però quest'anno la sagra avrà una particolarità. Salutiamo il sindaco della cittadina in provincia di Rieti, Sergio Pirozzi. Buonasera. Salve, buonasera a tutti voi. Allora, la particolarità è che farete una ecosagra, cioè cercate di evitare roba di plastica che si butta via, bicchieri, posate e quant'altro, è così? Sì, no, parte diciamo da una grande intuizione, perché noi siamo in un territorio che fa parte del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, per cui in un'area diciamo che è tutelata, protetta in qualche modo, molto protetta, come è giusto che sia, per cui sulla scorta questa come giustamente stavi dicendo te, la 44esima sagra degli spaghetti amatriciani, un piatto penso che sia conosciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo. Noi abbiamo calcolato che ogni anno, diciamo in concomitanza di questi due giorni, c'era una produzione circa 12.000 piatti, 12.000 forchette e 12.000 bicchieri. Cioè 12.000 piatti solo dalla sagra della matriciana, sì, di... sì, alla sì. Faccia. Tra l'altro non so perché, ma ci troviamo sempre a quest'ora a parlare di roba da mangiare. Diciamo che stuzzica l'appetito. Per e quindi cui... siete partiti da questa consapevolezza? Sì, no, perché nostra intuizione, nostra ferma diciamo convinzione... di chissà avere che montagna di piatti di plastica in 44 anni di sagre è stata creata. Tantissimi, per cui abbiamo acquistato dei piatti con polpa di cellulosa e dei bicchieri, delle forchette che poi abbiamo preso diciamo un'eco compostiera, un'eco trituratrice, che poi questa roba la metteremo tutte dentro delle compostiere abbastanza grandi che nel giro di un paio di mesi produrranno anche quel concime che è necessario, cioè, per i nostri campi. Praticamente i piatti con gli avanzi vanno tutti insieme in un mega trituraggio, è così? Sì. E poi... lo farete proprio lì alla fine della saga? Sì. Quindi diventa anche un momento così simbolico, conviviale? No, è simbolico e penso che sia diciamo di insegnamento per le nuove generazioni. E pensate voi se tutte le sagre che si svolgono diciamo in Italia ogni anno, sì, ne sono molteplici e tantissime, tutte adottassero questo sistema, sarebbe un grande contributo. Io so che è una cosa che si sta un po' diffondendo, a dire la verità, perché questa consapevolezza per fortuna comincia a esserci. Però una cosa, Sindaco, mi piacerebbe capire, voi quanto venite a spendere? Perché si sa che la plastica non è che si compra perché uno è cattivo, perché c'è sul mercato, costa poco e quindi chi vuol fare la sagra... 2.000 euro in più. Su quanto, se posso chiederglielo? Guardi, su un monte... 4.000 euro invece di 4, cioè invece di 2 ne sono 4, per cui penso che sia un contributo che minimo diciamo che ce lo ritroviamo sul carico di rifiuti che poi dovremmo portare sempre in discarica. Questa semmai è una cosa interessante, sì, perché nessuno poi valuta mai anche in termini economici questi chiamiamoli disvalori, insomma, per cui sarebbe interessante fare dei calcoli. Certo però che da 2 a 4.000 euro, insomma, non avete trovato un fornitore più economico? C'è qualcuno? Vengono questi piatti in cellulosa? Scommetto non dall'Italia. No, sì, questi qua li abbiamo presi in un'azienda del centro Italia, non faccio il nome. Vabbè, non per non dare la pubblicità, però diciamo che sono quelli giusti e sono anche biodegradabili, per cui abbiamo questa grande opportunità e facendo i calcoli, diciamo i conti della serpa, come dico io, sono 10 tonnellate in meno di grandi rifiuti. È una notizia meravigliosa, però in discarica, per cui sono pari e patta. Senta, per il comune. E invece per quanto riguarda l'acqua, perché so che anche lì avete abolito le bottigliette. No, l'acqua pure lì è un'altra iniziativa. Noi abbiamo messo un'acqua, diciamo una fontana pubblica di acqua frizzante, per cui ci siamo attaccati sul ad Amatrice, proprio in paese. Sì. Ma la sagra si svolge in paese? Sì, o in campagna? Per cui anche per la sagra avremo due diciamo stazioni di quest'acqua del nostro acquedotto che viene depurata, filtrata, sarà sia a livello naturale che frizzante, per cui non ci sarà più la distribuzione di queste 10.000 bottiglie di plastica che ogni anno venivano dati a coloro che prendevano questi piatti pieni di questo grande piatto che sono gli spaghetti alla matriciana, per cui ci sono altre 10.000 bottiglie in meno di plastica che spesse volte si corre il rischio poi di trovarle non solo nei bidoni ma spesse volte si trovano in giro per l'ambiente e voi sapete che è un tipo di materiale poi che non si smaltisce, per cui inquina. Perché fate solo due giorni? Allunghiamola questa saga che mi sembra una delle più significative in Italia. Penso che serva un grande esercito, perché noi lì c'è una produzione di 14 quintali di sugo. E chi lavora? Si lavora gratis o c'è un rimborso? No, c'è un prezzo del biglietto che copre diciamo le spese. Sì. Però è più che altro fatto per far conoscere, al di là di questo piatto che non c'è bisogno di presentazione, è un modo anche per far conoscere il nostro comune, il nostro territorio, le assicuro, non perché sono il sindaco di questo comune, ma siamo all'interno proprio di un'area che non ha nulla a che invidiare ai paesi del nord. Insomma, tutti alla Eco Sagra dell'Amatriciana di Amatrice, un'iniziativa totalmente sostenibile dal punto di vista ambientale, una bella notizia, grazie al sindaco. Buona serata, buona festa domani e domenica, lo ricordo per chi ci volesse andare. Traffico. La Zanzara. Rientriamo di nuovo in diretta 20:18, andiamo a Bruno che ci chiama da Cosenza all'800 24 00 24. Buonasera, intanto la ringrazio per avermi richiamato. Volevo un attimo, dottor Maurizio, intanto non unirmi al coro degli elogi che le fanno per la sua conduzione. Speriamo che il suo Cruciani resti a controcampo tra tanti competenti. Beh, perché Cruciani sta facendo una carriera importante, adesso sarà a controcampo a partire da domenica. Andate a controcampo, tanto con Liguori faranno una bella coppia di incompetenti, come direbbe qualcuno. Questo non mi posso associare. Non si associ, lo dico io, insomma, anche perché Cruciani, che io sappia, non sa nemmeno se il pallone è tondo o quadrato, per cui ci sta bene a controcampo. Sì. Volevo non rubarle tanto tempo con questa battutaccia. Per quanto riguarda il discorso per cui avevo pensato di chiamare, era sul ruolo del giornalismo nella nostra realtà sociale. Ora, lasciando stare il ruolo del giornalista come missione, eccetera, essendo un attimino più pratici, io ho visto sempre il ruolo del giornalismo come quello che dovrebbe essere, diciamo così, il censore e lo stimolatore dell'opinione pubblica e anche dei politici, di chi ci amministra, di chi fa le decisioni, sempre lasciando perdere il proprio credo politico, ma cercando di far meglio gli interessi dell'intera società, dell'intero località. Sì, in cui ho capito che sta per arrivare una critica dopo i complimenti ai giornalisti. No, è chiaro, io ringrazio anche per avermi chiamato sapendo che l'argomento era questo. Dell'argomento di cui avrei parlato, per cui che dimostra. Però facciamo un caso concreto di che. No, per esempio, ecco il discorso delle campagne stampe di chi dissente un attimo dal volere del padre padrone, per cui dopodiché viene additato al pubblico ludibrio e si formano questi dossieraggi che stanno lì nei cassetti fermi anni, se non secoli. Poi quando parla di Feltri, parlo di Libero, non volevo fare un discorso di tipo politico, ma parlo anche di chi di Repubblica, perché quando si vanno ad interessare gli interessi proprio referente, si scatenano le scoperte, come per esempio se non si sapesse da 2 anni fa chi fosse la Tugliani, per esempio, per restare affini. Sono scoop orologeria, qualcuno li ha definiti. Sono cosa d'orologeria, così come vorrei, visto anche considerato il vostro ruolo, che io vorrei più tu insieme a Sky, uno dei migliori giornali, chi in televisione, chi in radio, sì, potesse nascere dalla vostra, una vostra iniziativa per recuperare un ruolo, diciamo, sociale al giornalismo. Va bene, grazie, è una bella telefonata. Noi d'altra parte credo che facciamo un giornalismo totalmente diverso, anche senza che io debba condividere i giudizi su questioni di Feltri o su Repubblica o su altri rispetto a questi giornali, su questo non c'è dubbio. Anche Sky TG24, che tra l'altro è stato premiato come migliore TG e fa un'informazione indubbiamente molto puntuale e lontana da certe campagne. Poi insomma servono anche, io credo, le campagne quando smuovono l'opinione pubblica, e poi le campagne alla fine sono i direttori che le pagano o no. Feltri è uno che dove va vende un sacco di copie, e sappiamo anche che questo è per un giornale fondamentale, no? Allora, dove andiamo? Roger, che ci chiama da Vicenza, buonasera. Salve. Prego. Buonasera, salve. Io volevo parlare invece della questione legata alle carceri. Sì. Di poco fa. Sì, Lugano. Io Sì, no, io sono completamente a favore di soluzioni come quelle così adottate in Svizzera, anche se mi rendo conto che i mezzi a nostra disposizione vengono indirizzati piuttosto per riarmi o favori ad altre sponde, diciamo. Sì. Ah, poi un'altra cosa che volevo sottolineare sì. è quanto gli italiani siano sempre sulla carta dei buoni cattolici e dei bravi cristiani, probabilmente solo a Natale, poi quando si tratta invece di porgere l'altra guancia a gente che comunque, almeno in teoria, sta già pagando il proprio dazio, invece non gli si apre nemmeno una porta, nemmeno teorica, diciamo. Grazie anche a lei. Andiamo a Renato che chiama da Roma. Buonasera. Prego. E complimenti alla trasmissione. Grazie. Io sono un attivista iscritto al Partito Democratico qui a Valmontone, sono stato consigliere comunale con deleghe di assessore e il consiglio comunale purtroppo si è sciolto luglio scorso, il 6 e il 5 luglio scorso, perché tre consiglieri di maggioranza del Partito Democratico hanno sfiduciato un sindaco ed una giunta a prevalenza del Partito Democratico, quindi bravi a farci del male da soli come sempre. E, vorrei riferirmi un attimino a quello che ho sentito, la lettera di Bersani. Come dire, riesumare l'Ulivo è come dire non si vuole cambiamo tutto per non cambiare nulla. Però scusi, ma le alleanze, perché prima che lei si avventuri giustamente anche in altre analisi, però dico, il tema delle alleanze, noi l'abbiamo posto un po' così questa sera, è cruciale, non è che se ne può fare a meno. Quella di Veltroni era stata una giusta scossa, però certo. Se il centro-sinistra vuol tornare al governo si deve alleare o no? Perfetto, ma io sono d'accordo alle alleanze con tutto, con tutti, ma vorrei partire vorrei sentirmi dire del mio partito che c'è voglia e volontà di cambiare, cioè di rinnovamento. Incominciamo noi ad essere, per esempio, propositori di una legge che permetta al massimo due legislature alla Camera, al Senato, al Parlamento Europeo, ai consigli regionali e provinciali, come succede tra l'altro ai sindaci. Quindi lì avremo veramente un dinamismo e una capacità di rinnovarci, no? Quindi se il Partito Democratico uscisse con questa proposta prima che ci sia magari le prossime elezioni politiche, abbiamo veramente dato una scossa al sistema politico nazionale. Poi possiamo anche aggregarci, ma intanto siamo il primo partito del centro-sinistra e dobbiamo dettare noi le regole anche lì. Quindi secondo lei proposte anche in questo senso, cioè in senso di rispetto delle istituzioni o questioni di rielezioni potrebbero dare la scossa? Sicuramente la darà, perché purtroppo il nostro partito è imprigionato da chi? Da burocrati che gestiscono il partito, nello stesso tempo gestiscono anche le istituzioni in molte parti, rappresentano gli elettori alla Camera, al Senato, e quindi sempre loro sono. Questo non è possibile. Grazie. Lo so, i partiti sono una cosa strana, perché non si sa chi decida dentro i partiti, chi è arrivato per primo e non se ne va più, e gli altri che stanno fuori e premono per avere decisioni diverse, però poi non premono neanche tanto, perché spesso si sta lì alla finestra a guardare. Comunque, dove andiamo? Proviamo con Carlo che ci chiama dalla provincia di Mantova. Buonasera. Buonasera. In realtà sono in Liguria adesso, però lo stesso. Era scritto così, chissà. Era... Forse lei è originario della provincia di Mantova, no? No, è che sono in viaggio in Liguria, ecco. Però abito lì, lavoro lì. Ecco. Niente, il mio intervento era su Bersani. Non voglio dire una provocazione, ma insomma, comunque un'idea. Io sono del parere che non abbiamo bisogno di un leader che si contrapponga a un altro leader. Cioè, non c'è bisogno che ci sia un altro dittatore delle Repubbliche delle Banane. Abbiamo bisogno che dall'altra parte ci siano delle idee e dei programmi. Quello che io farei se fosse il posto di Bersani sarebbe di trovare i punti importanti del programma, e ho 3 anni di tempo, perché questi probabilmente staranno qui altri 3 anni a governarci, ho 3 anni di tempo per mettere a punto il programma su quello che voglio fare, sui punti cardine, giustizia, sanità, federalismo, eccetera. Chi aderisce al mio programma e diciamo, ora, noi siamo questo è il nostro programma, perché vogliamo far cambiare l'Italia dopo 15 o 20 anni che l'Italia non si muove. Ma non per scalzare Berlusconi in quanto tale, perché lo status quo è veramente indecente. Va bene. Quindi noi vogliamo... Insomma, va bene, cioè, la sua opinione. In chiusura sentiamo un altro ascoltatore. No, non lo sentiamo perché siamo sennò troppo lunghi, mi fanno cenno. Vabbè, dai, avevamo ancora qualche secondo. Mi dispiace per quelli che sono in linea, interverranno, saranno sicuramente richiamati lunedì prossimo quando tornerà Giuseppe Cruciani. Io voglio ringraziare per questa bella settimana di lavoro insieme ancora Laura Marchesi, Antonella Migliaccio in redazione, anche Valeria Bernardi che è stata tutta la settimana in regia, e da Alessio Maurizi buona serata, la Zanzara torna lunedì prossimo. Radio 24, la passione si sente.